Questo sì. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere tornati anche stasera qui con noi. Questo è il quarto incontro. Stasera affronteremo con i nostri oratori il tema dell'antiriciclaggio con una particolare attenzione sui temi del racket e dell'usura. Il dottor Donadio si scusa ma ha l'influenza e quindi non potrà essere presente stasera, ma sicuramente ci saranno altre occasioni per riospitarlo qui e per insomma farci dare il suo contributo preziosissimo. Il professor Tura sta arrivando. Vi presento intanto Pierpaolo Romani, dell'associazione Avviso Pubblico, che sarà appunto uno dei nostri relatori su questo tema molto, molto delicato, e Francesco Vignola, che voi già conoscete, che guiderà un po' i lavori e ci farà vedere anche, da quello che ho visto, qualche video. Io vi ricordo che al tavolo che trovate alle vostre spalle potete firmare la legge di iniziativa popolare per l'educazione alla cittadinanza nelle scuole. Si può firmare nei comuni di residenza, quindi chi è residente a Bologna può firmare direttamente qui da noi, e c'è tempo fino al 5 di gennaio. E informazione di servizio e chiudo: quando usciamo, dopo le 9 ovviamente usciamo sempre da via 4 novembre, quindi l'uscita che c'è qui nel secondo cortile. Detto questo, io mi fermo, do la parola a Francesco per iniziare. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Intanto la prima cosa sono delle scuse, nel senso che appunto abbiamo avuto questi due intoppi, uno di ieri pomeriggio, il dottor Donadio ci ha chiamato, era dispiaciutissimo, ma ha la febbre alta e quindi non può essere presente, ma non abbiamo avuto neanche un tempo utile per avvisarvi e ricostruire una data successiva, ma siamo rimasti con il dottor Donadio, che lui ha dato assolutamente la disponibilità ad essere presente in un momento da costruire fuori dal percorso, anche nell'anno prossimo, però per recuperare l'impegno lui ci teneva ad essere presente. E come sempre, come dire, le sfide non viaggiano mai su una gamba sola, ma vanno in coppia. Mario Turla, che sta arrivando da Milano, ha avuto un blocco sul treno, per cui a un ritardo arriverà 7:10 a Centrale, prenderà un taxi e sarà qui alle 7:30. E quindi ci troviamo a gestirla così, e io me ne scuso, purtroppo cioè, né sull'influenza né sui treni siamo in grado di governare la situazione. Quello che avevamo immaginato di fare e che vorremmo fare è questo: spostando solo di un, cioè Pierpaolo Romani è il coordinatore nazionale della nostra associazione e farà un intervento centrato sul tema delle infiltrazioni nell'ambito dell'economia, dove entra anche la parte sul riciclaggio, ma più legato al rapporto corruzione, mafie, circuito dell'economia legale ed illegale. Mario Turla, quando arriverà, presenterà sia parti della normativa nuova e dell'innovazione normativa legata al tema dell'antiriciclaggio e soprattutto alcune possibilità di azione concreta che gli enti locali, ma anche altri enti ed altre organizzazioni possono mettere in atto nel contrasto a questo fenomeno. Io vi chiederei solo una cosa: quanti di voi erano presenti la prima sera? Se potete alzare la mano. Ma ok, non molti. Allora io credo che potrebbe essere utile, mi spiace per chi c'era la prima sera, fare un breve quadro di sintesi del perché di questo percorso. Queste sono le date che vedete, siamo giunti al quarto appuntamento. Io ringrazio il Comune di Bologna anche per aver creduto nella possibilità che con la nostra associazione fosse possibile produrre qualcosa di interessante. Abbiamo provato a costruire questo tema, che questo lavoro è un percorso intero di riflessione sul tema delle mafie, dell'economia e sul ruolo dell'ente locale e di tutta la parte della società civile. Intanto noi chi siamo? Noi siamo Avviso Pubblico, il nome è Enti Locali e Regioni per la Formazione Civile contro le Mafie. Siamo un'associazione che ha compiuto 20 anni due anni fa, è nata insieme all'Associazione Libera, l'associazione di Don Luigi Ciotti, che è molto molto conosciuta, dallo stesso nucleo di persone che che all'epoca ha immaginato fosse importante costruire due contenitori organizzativi, uno libera, dedicato alle singole persone e alle associazioni, e uno, a viso pubblico, legato agli enti locali, alle province e alle regioni. Quando siamo nati eravamo 15 soci, oggi sono più di 400 soci in tutta l'Italia, ci sono 11 regioni, tra cui le regioni anche più numerose, c'è la nostra regione, c'è la regione Toscana, c'è la regione Lombardia, il Piemonte, la Calabria, la Puglia, insomma c'è un corposo numero di amministratori locali, perché l'associazione è fatta di amministratori locali e regionali che credono che impegnarsi su questi temi sia fondamentale. Quello che facciamo è lavorare insieme alle altre istituzioni, facciamo una serie di attività collegate alle regioni, appunto, ma anche alle università, alle camere di commercio, alle associazioni nazionali, ai sindacati, agli istituti scolastici e al Parlamento e alle istituzioni nazionali. Siamo stati auditi e collaboriamo con la Commissione parlamentare antimafia, la Commissione parlamentare di inchiesta sugli amministratori minacciati e quella sul ciclo dei rifiuti. Il nostro tentativo è di muoverci sul piano locale e sul piano nazionale, facendo alcune cose specifiche. Quelle che vedete sono solo alcune idee. La prima, in alto a sinistra, la carta di avviso pubblico, il primo codice etico per gli amministratori locali, che la nostra associazione ha prodotto e che è sempre più diffuso. Poi la collana Contrappunti, che non è nient'altro che una collana di Altra Economia che insieme a noi produce testi di approfondimento su alcuni assi tematici. L'ultimo, quello che sta circolando di più, è Rules for Life, e tratta del tema del gioco d'azzardo e delle infiltrazioni della criminalità nel circuito illegale, ma anche nel circuito legale. Tutto il processo Black Monkey in questa regione ha scoperchiato proprio quanto questo tema sia rilevante. Facciamo poi della formazione, momenti come questi, momenti rivolti agli enti pubblici. Abbiamo un piccolo libro che esce ogni anno che si chiama Amministratori sotto tiro e che da ormai un po' di anni mappa e traccia i casi di minacce e intimidazioni rivolte agli amministratori locali. Sembra una stupidaggine, è un dato irrilevante, ma sono più di 400 all'anno, sono più di un caso al giorno di minaccia o intimidazione verso gli amministratori locali, non tutti legati alle organizzazioni di stampo mafioso, però segnale di un clima nella relazione fra le istituzioni e i cittadini sempre più difficile. Sul nostro sito, e poi chiudo la presentazione di chi siamo, ma mi sembrava sensato che voi lo sapeste, trovate poi l'Osservatorio parlamentare e tutta una documentazione che abbiamo costruito negli anni che monitora, mappa e sintetizza tutta l'attività legislativa nazionale, regionale e locale sui temi di nostro interesse, dagli appalti, dal tema dei beni confiscati, al gioco d'azzardo, al caporalato. Questo io credo possa essere uno strumento utile per chi professionalmente o anche solo culturalmente vuole vedere quali strumenti mette in campo il legislatore nazionale e quali sperimentazioni ci sono in campo locale. Perché parlare di questi temi? Perché sembra banale dirsi perché, però in realtà ci sono una serie di ragioni non superficiali. Il primo dato è che ormai da anni si parla di emergenza della corruzione nel nostro paese. Sono così tanti che il dato non è più emergenziale, ma è un dato fisiologico. Questa cartina che vedete è una tabella prodotta da Transparency International, è l'ultimo report di Transparency International che traccia la percezione della corruzione nei paesi dell'Unione Europea e non solo. Come vedete, guardando la freccia gialla, noi siamo in una posizione bassissima. Il dato è ambivalente, perché poiché la corruzione, ma forse il dottor Romano ce lo spiegherà meglio, è un fenomeno oscuro, è nascosto, è evidente che è difficile avere dei dati. E per cui si lavora sul tema della percezione, ma non è una percezione casuale, perché questi dati sono presi a partire da stakeholder che sono sì cittadini, ma sono anche persone che hanno ruoli di responsabilità nel pubblico e nel privato, sono gli investitori che danno la loro percezione della corruzione nei diversi paesi dell'Unione Europea. Il dato negativo è, basta guardare dove siamo nelle classifiche, il dato positivo è che dal 2012 siamo leggermente in salita. Perché parlare di mafie? questo ci sono i dati dell'ultimo report dell'Associazione Libera, presentato pochissime settimane fa, era stato presentato due giorni prima del primo incontro di questo ciclo. Ebbene, all'epoca, se leggete, solo l'8% di 10.000 persone intervistate ritiene che la mafia sia un fenomeno che esiste anche al di fuori delle terre di origine. È un dato spaventoso che è preso anche in interviste fatte in questa regione, dove in questi anni abbiamo parlato di Black Monkey, ancora più diffuso, ma la conoscenza, lo dicevamo oggi, è quella del processo Emilia. E perché parlare di mafia e corruzione insieme? Perché siamo di fronte a delle trasformazioni profonde dei due fenomeni, che sono in continuo movimento, e perché sempre più i due fenomeni appaiono collegati, in particolare in queste regioni, e c'è bisogno di uscire da un immaginario stereotipato, in particolare delle organizzazioni mafiose, ancora legato alla dimensione della lupara, dello sparare, della violenza e basta. Oggi sempre più le organizzazioni criminali offrono servizi, e quei servizi vivono perché sempre più c'è una domanda di quei servizi. Uno dei principali è proprio il tema del denaro sporco, delle organizzazioni criminali, ma anche quello che è il nero dell'economia legale che ha bisogno di essere messo in moto. Allora vorremmo provare dentro questo percorso a raccontare di questi temi, tenerli insieme ma cercando di farlo in un modo non stereotipato. Così come è cambiata la mafia, infatti, ed è stato molto evidente nell'arco del primo incontro, era presente qui ANAC, era presente qui la Procura, si è trasformata negli anni la dinamica corruttiva. Da un sistema molto più semplice, numero di attori estremamente ridotto, a un sistema che mette in campo una pluralità più elevata di soggetti. Non ci sono più, come all'epoca di Mani Pulite, sostanzialmente i partiti e i soggetti del contesto economico, ma sono molti di più i soggetti che circolano, e in questa rete ampia le organizzazioni mafiose sempre più spesso hanno un ruolo, che è il ruolo di chi regola quelle relazioni e fa sì che i patti oscuri vengano rispettati, perché è in grado di mettere in campo non una violenza agita, ma anche solo paventata, che fa sì che i soggetti che costruiscono accordi nel circuito corruttivo si sentano chiamati a rispettarli. L'idea poi è con chi ne parliamo e perché qui con voi. Beh, noi rappresentiamo gli enti pubblici, ente pubblico è il Comune di Bologna che promuove questo ciclo di incontri. Gli enti pubblici, come penso saprete, sono chiamati ogni anno a costruire una cosa che si chiama Piano Anticorruzione dal 2012. ANAC, che ha fatto questa richiesta e che monitora al momento dei piani anticorruzione sul nostro paese, ci dice dal primo anno in cui incomincia a analizzare l'esito che il livello di coinvolgimento dei soggetti esterni all'ente pubblico è troppo basso perché i piani anticorruzione degli enti siano efficaci. Che in sintesi vuol dire: se il fenomeno corruttivo, se le mafie intercettano una pluralità di soggetti, vuol dire che sono capaci di costruire reti sociali e economiche sul territorio. Se i comuni non fanno altrettanto, non saranno mai in grado di mettere in campo risposte efficaci. E lo facciamo perché questa consapevolezza si lega a delle fragilità. Gli enti locali sempre più sono in grado di comprendere, danno chiaro di essere in una situazione di fragilità molto profonda. Questi dati che vedete fanno riferimento a un comune della Lombardia, elezioni 2017, 30.000 elettori potenziali votano solo in 15.000, 188 voti per diventare Presidente del Consiglio. Io vi lascio immaginare quanto sia contendibile, non dico facile, ma contendibile per un'organizzazione come la 'Ndrangheta spostare in un comune del centro-nord 188 voti. È una porta spalancata, non sempre facile, non è che in ogni luogo del centro-nord padroneggiano numeri di voti straordinari, però la democrazia diventa contendibile quantomeno. È una partita che io, organizzazione criminale, mi sento di poter giocare. E questo è un primo grande elemento di fragilità. E il secondo ha a che fare con la struttura amministrativa. Questi sono alcuni dati nel rapporto dell'Unione Europea che identifica la nostra amministrazione pubblica come quella dell'Unione Europea che ha la più bassa efficienza e efficacia, la più alta durata delle procedure, ha un eccesso di adempimenti. Non so quanti lavorano nell'ente pubblico qua, però penso che li conoscano benissimo, qui ce ne sono solo messi alcuni, il piano anticorruzione diventa l'ulteriore adempimento, gli stipendi sono fermi da anni e sono bassi rispetto alla media europea, gli stipendi della pubblica amministrazione sono alti, sopra la media, perché l'incidenza del comparto regione, del comparto ministeriale statale è molto alta, ma l'ente locale ha stipendi molto bassi, l'età è altissima. 2020 avremo un terzo sopra i 60 anni, di questo stock di dipendenti il 34% non ha neanche il diploma e il 18% solo è laureato. Ciò significa che quelli che hanno il diploma sono chiamati a mansioni che teoricamente non dovrebbero fare. In più, in un contesto di relazione con la cittadinanza molto difficile, le campagne contro i furbetti del cartellino, anche legittime, non è che non si debbano fare, anche legittime, cioè l'amministrazione spessissimo ci mette del suo, però hanno costruito un contesto in cui per l'amministrazione locale è difficile relazionarsi con il cittadino, invece in un momento in cui ce ne sarebbe assolutamente bisogno. E ce ne sarebbe bisogno, e questa è una dimensione più, se vogliamo, di epistemologia della conoscenza, ce ne sarebbe bisogno, perché di fronte a un fenomeno complesso la prospettiva unica non funziona. Questa statua, che tra l'altro è stata anche qua in Piazza Maggiore, credo 7-8 anni fa, è interessante perché è la stessa statua, non sono due statue diverse. A seconda di dove ti giri e gli giri intorno, tu vedi l'elefante o le vie giraffe, ed è un giochino, adesso è un giochino però che serve a capire come nei processi di conoscenza la prospettiva unica sia sì reale, perché io vedo l'elefante c'è, ma non è sufficiente di fronte a una realtà che è plurale, multiprospettica, contraddittoria. La mafia oggi è coppola. Se voi andate al Parco dei Nebrodi, secondo me quella è una storia che esemplifica bene. Parco dei Nebrodi, pochi anni fa, Giuseppe Antoci, presidente del Parco dei Nebrodi, subisce un attentato pesantissimo da parte di Cosa Nostra, perché attraverso l'uso dello strumento dell'interdittiva antimafia alza il livello dell'asticella e dei controlli, anche laddove la legge da sola non li rende obbligatori, e in accordo con la procura e la prefettura incomincia a chiedere la documentazione antimafia anche sotto una certa soglia di investimento. Scoperchia un sistema per il quale la maggior parte dei terreni, oltre l'80% dei terreni affidati nel Parco di Nebrodi, avevano proprietari fittizi riconducibili a Cosa Nostra, ma a Cosa Nostra, alla famiglia Riina proprio, non a degli sconosciuti. Su quei terreni la mafia prendeva le risorse dell'Unione Europea per installare le pale eoliche per l'agricoltura, non lo faceva, producendo un giro d'affari enorme, più lucroso in quella fase del mercato dell'eroina e della cocaina per Cosa Nostra. Allora tu li avevi, i mafiosi del Parco dei Nebrodi, che vanno ancora a caccia con la coppola e la lupara, li vedi ancora, che però contemporaneamente erano in grado di gestire gli investimenti dell'Unione Europea. Allora noi abbiamo bisogno di letture che tengano conto di tutte le prospettive. Perché fare questi percorsi? Quale obiettivo ci diamo? Nel breve periodo il primo obiettivo è: siamo d'accordo che c'è un'emergenza, che c'è un problema. Riusciamo a diffondere la consapevolezza e a condividere con più soggetti il bisogno di agire, perché se non condividiamo il bisogno di agire, i contesti organizzativi non si muovono, soprattutto laddove non c'è un vertice che comanda il funzionamento del resto della macchina per via gerarchica o ordinativa. Non è che il comune dice all'ordine dei commercialisti o ai notai fate così e lo fanno, e viceversa. Ci si muove insieme se si condivide insieme che c'è il problema. Questo è il primo obiettivo di un percorso come questo. Nel medio periodo invece, se non nel brevissimo, è provare a disegnare il problema, cioè provare a tornare alla statua, prendere le spese diverse prospettive, la prospettiva dei notai, la prospettiva dei sindacati, la prospettiva dell'ente pubblico, la prospettiva dei commercianti, e insieme disegnare il problema intorno al quale ci si vuole muovere. Questo movimento, speriamo, poi nel lungo periodo, porti a costruire delle soluzioni contestuali, a non immaginare che le soluzioni possano venire dall'esterno, prese, confezionate, che magari funzionano, e essere replicate in un contesto diverso, ma possano nascere dai contesti in cui si entra. Ecco, questo era per darvi il quadro, io spero non troppo lungo, non troppo verboso, del perché di questo percorso e del senso che noi proveremo a mettere in campo, che è il motivo per cui al termine dell'incontro del dottor Romani e poi al termine dell'incontro del dottor Turla vi chiediamo, se vorrete, contributi, domande, insomma, proviamo a costruirlo davvero pluralmente anche qui. Ora, per introdurre il tema delle infiltrazioni in economia, io invece di continuare a parlare vi faccio vedere un breve estratto da una trasmissione che si intitola Infinito Crimine, che è andata in onda su Rai 3, che è curata dalla RAI insieme alla procura di Catanzaro, e che secondo me ha in alcuni tratti, ovviamente, una trasmissione televisiva, quindi ha bisogno di cogliere l'attenzione e sintetizzare, col rischio di semplificare. Però, secondo me, rende in modo efficace alcuni punti che su questo tema dell'infiltrazione nell'ambito dell'economia e del riciclaggio sono fondamentali. Io metto subito lì il microfono e spero si senta. Nel gennaio 2015 l'operazione Emilia, coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Bologna, porta all'arresto di un centinaio di persone. Nelle inchieste sono coinvolti anche politici e liberi professionisti. Tra gli arrestati c'è una consulente fiscale, Roberto Pattini, che si è messa a disposizione del boss di Cutro, Nicolino Grande Lacri, per gestirne gli affari. E racconta al telefono. Mi genitori però, domanda parecchio, loro mi fanno il lavoro proprio nel vita, perché mi rappresenta 140 mesi, loro non lavorano con la porta, no, ma loro sono morti, quindi grazie. Ora che poi funziona così, È un dato di fatto che lo leggiamo sui giornali, sui vari procedimenti che si sviluppano nell'ambito della criminalità organizzata, che esiste un'ampia zona grigia in cui si muovono dei soggetti che facilitano i capitali di economia illecita all'economia lecita. Questa zona grigia in realtà offre servizi illeciti. E quindi questo aspetto è abbastanza scontato ovvio, non è altrettanto scontato ovvio che esiste una elevata domanda di legalità che proviene poi da quegli stessi settori che sono chiamati spesso volte ad assecondare il flusso di capitali illeciti, e questo è dimostrato nella sua dimensione dall'evidente flusso di segnalazioni sospette che arrivano dalle fondazioni finanziarie dell'Italia, che sono notate 8 volte negli ultimi 10 anni. Dal 2008 l'Unità di Informazione Finanziaria di Banca Italia è rimasta il ruolo di autorità centrale antiriciclaggio. I suoi uffici acquisiscono e analizzano le informazioni che vengono poi trasmesse agli organi investigativi. La criminalità organizzata ha l'esigenza di rendere possibile l'utilizzo, senza essere rintracciati, di una ampia quantità di risorse che derivano dalla criminalità illecita. Tutto per fare questo occorre la complicità da parte di una serie di soggetti che appartengono a diverse categorie sociali e professionali, che non solamente nel assecondare l'attività di riciclaggio si muovono in una sfera di attività illecita, ma il loro mancato allarme della presenza di fondi che transitano tra le due economie determina e consente e favorisce l'attività di riciclaggio. Sì, penso che per comprendere la domanda bisogna ragionare per sottrazione. Cioè, se non ci fosse il consenso sociale non ci sarebbe 'ndrangheta, e se non ci fossero i professionisti la 'ndrangheta farebbe grande fatica a riciclare denaro sporco. Anche le più diverse famiglie 'ndrangheta da sole non sono in grado di fare riciclaggio sofisticato. Sono in grado di comprare borghi, ristoranti, pizzerie, latifondi per poi ottenere i contributi da parte della comunità europea, ma il riciclaggio sofisticato, quello per giustificare stanze piene di euro, quello possono fare solo rivolgendosi a professionisti, a esperti bancari, a commercialisti, ad avvocati, altrimenti da soli non ce la faranno mai. Chiedete a mia moglie, io portavo la bustata di soldi in della casa, non ci mancavano mai i soldi, ma proprio ci stancavamo di contarli, facevamo pure i coriandoli quei soldi. Poi ci siamo comprati una macelleria, poi abbiamo contattato un commercialista che ci ha aiutato a comprare degli appartamenti in Germania. A un certo punto mi chiamavo pure, se non avessi per cortesia potevamo non comprare più appartamenti in quella città della Germania, perché avevamo già acquistato 3 quartieri. Poi abbiamo comprato ristoranti famosi, volevamo comprare pure una banca svizzera, però poi alla fine abbiamo deciso di fare le buste con lo scotch, con i soldi avanzati, di seppellirli. È capitato pure che le buste erano chiuse male, 2-3 miliardi sono andati marciti e nessuno disse niente. Allora, per Paolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, cosa sta succedendo nel nostro paese, da sud a nord? Con quali differenze? E ci aiuti a capire meglio questa dinamica di relazione fra le organizzazioni criminali, il tema della corruzione e i circuiti dell'economia del sud, ma in particolare del centro del nord del nostro paese? Allora, grazie Francesco, buonasera a tutti e a tutte. Grazie al Comune di Bologna e alla consigliere Giulia Di Girolamo per aver contribuito a organizzare questo percorso. Pone una serie di questioni particolarmente articolate e complesse sulle quali è bene riflettere. Io però, per iniziare la mia riflessione, ci tengo un po' a chiarire che significato ci sta dietro alle parole. Quindi la prima cosa che vorrei fare è leggervi un pezzo, magari molti di voi lo conoscono ma non lo do per scontato, vi chiedo scusa ma avverto quest'urgenza, un pezzo dell'articolo 416 bis del codice penale. Perché? Perché il 416 bis, che è stato introdotto nel 1982 nel nostro codice penale, definisce che cos'è un'organizzazione a delinquere di tipo mafioso. E vorrei ricordare che lo Stato italiano arriva a riconoscere l'esistenza delle mafie circa 100 anni dopo la nascita effettiva di questo fenomeno, che è un fenomeno che nasce attorno al periodo dell'Unità d'Italia, secondo la maggior parte degli storici. È un fenomeno che nasce nel Mezzogiorno d'Italia, ma oggi non possiamo certamente dire che sia semplicemente un fenomeno del Mezzogiorno d'Italia. Oggi il tema delle mafie, anzi da diversi anni, è diventato un problema di natura nazionale. Questa regione purtroppo lo ha conosciuto in maniera importante da qualche tempo, ma è diventato anche un problema di natura internazionale, proprio perché le mafie hanno questa grande capacità, che è quella di agire in maniera, si direbbe, glocal. Operano, pensano, riflettono, pianificano al sud e poi molto spesso agiscono al di fuori dei territori del sud. Faccio questo passaggio perché oggi, a differenza di 10 anni fa, si sono moltiplicati, e va bene certamente, sia i libri sia le iniziative che hanno per oggetto le mafie al nord. Va benissimo, le mafie, avete visto, sono anche al centro del nostro paese. L'inchiesta Mondo di Mezzo, più nota come Mafia Capitale, ha dimostrato che nel Lazio, addirittura nel centro amministrativo più importante della nostra capitale, era riuscita a farsi breccia e a condizionare in maniera pesante l'amministrazione, un'organizzazione a delinquere di tipo mafioso fatta di persone che vivevano ed erano nate e operavano nel Lazio. Mafia Capitale era composta tra l'altro da due signori, uno che aveva, diciamo così, tendenze di estrema destra e uno che aveva operato e aveva simpatie di sinistra, ma che si erano tutti e due trovati d'accordo nella possibilità di realizzare un business. Quindi, primo elemento, le mafie agiscono in maniera globale. Secondo elemento, le mafie hanno un'altra grande capacità, che è quella di tenere insieme la tradizione con la modernità. Tu prima citavi Antoci e citavi il Parco dei Nebrodi. Ecco, non dimentichiamoci che uno degli affari tuttora più importanti delle organizzazioni mafiose è ad esempio il controllo dei mercati ortofrutticoli, dei trasporti, dei prodotti, della manodopera, del facchinaggio, della guardiania. Conoscete Fondi o l'avete sentito nominare, un mercato importantissimo che si trova nel Lazio. Avrete sentito nominare Vittoria, da dove arriva l'uva, quella grossa, e Sicilia o i pomodorini piccoli. Ma in una relazione della Commissione parlamentare antimafia del 1998 sull'Andrangheta, non solo si scrive che, del 2008, scusate, che la seconda capitale dell'Andrangheta dopo Reggio Calabria e Milano, ma lì si racconta il condizionamento dentro il mercato ortofrutticolo di alcuni clan dell'Andrangheta. C'era un signore di nome Saverio Morabito, che ufficialmente era un facchino, aveva un tesserino rilasciato da una società controllata dal comune di Milano. Peccato che questo facchino tutte le mattine andasse a lavorare in Ferrari dentro al mercato ortofrutticolo, anche per dare l'idea un po' della persona che era. Quindi controllo dei pascoli, controllo dei terreni, ma anche, se io penso a una famiglia calabrese di 'Ndrangheta, di Coluccio, la capacità poi di spostarsi all'estero. La famiglia Coluccio vive in Calabria in condizioni normalissime, uno dei figli viene arrestato nel palazzo più importante del Canada in un attico con $1 milione in contanti. Ecco, per darvi l'idea di come queste persone operano. Quindi la tradizione, controllo i terreni, controllo i mercati ortofrutticoli, ma poi mi butto anche nella modernità e quindi comincio a buttarmi nei mercati finanziari, per esempio, comincio a buttarmi nei mercati immobiliari, comincio ad operare, adesso ci arriveremo, come un imprenditore che ha un capitale che deve investire e cerca di investire in maniera diversificata per evitare che i rischi o le opportunità si concentrino esclusivamente in un certo mercato. Allora vi leggo, e poi proseguo la mia riflessione, questo pezzo dell'articolo 416 bis. Lo faccio perché l'idea è che per molti tutto ciò che non funziona a un certo punto viene definito è una mafia, no? E però il rischio qual è? Che se io vedo mafia dappertutto, alla fine non vedo mafia da nessuna parte. Allora, la mafia è una cosa specifica che viene definita dal 1982 da questo articolo, che è il 416 bis, introdotto a sua volta da una legge, che è la 646 dell'82, che molti di noi conoscono perché è denominata come legge Rognoni-Latorre, promossa a suo tempo da Pio Latorre, che nell'82 fu ucciso il 30 di aprile a Palermo con Rosario Di Salvo, che era il suo collaboratore. Il 3 settembre, ricorderete, a Palermo uccidono il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che era diventato prefetto da circa 100 giorni, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Grande indignazione nel paese, in 13 giorni il Parlamento fa quello che non aveva fatto in 13 anni, se non di più. Quindi, quando, magari alcuni di voi lo hanno già fatto, ma chi dopo questo corso volesse approfondire la conoscenza sul fenomeno mafioso, leggerà nel codice penale dei bis e dei ter, se non dei quater. Purtroppo la legislazione antimafia in buona parte è stata sempre una legislazione emergenziale. È la legge sui sequestri di persona, è la legge 109 del 96, quella su cui poi torneremo, promossa da Libera per prevedere che i beni confiscati possono essere utilizzati per fini sociali istituzionali, sono delle leggi che fortunatamente sono nate non da un'emergenza, ma dalla presa di consapevolezza di un pezzo del paese, di un pezzo della politica, che bisognava fare quelle leggi perché è indiscutibilmente vero, e noi siamo diventati un modello pagato a prezzo altissimo, noi lo ricordiamo ogni 21 marzo, 150.000 persone sono venute a Bologna qualche anno fa, il 21 di marzo, a ricordare le vittime innocenti di mafia, a riflettere sul fatto che questo è un fenomeno che non può essere meramente considerato come un problema di ordine pubblico risolvibile da magistrati e da rappresentanti delle forze di polizia. Il tema delle mafie è un problema anche di natura culturale. Il mafioso ha un modo di essere, di intendere e di agire nella vita. Quindi oltre, adesso leggeremo il tema mafia, c'è un tema di mafiosità che si sta estendendo nel nostro paese. Qualche tempo fa in documenti ufficiali si è parlato di una sorta di mafiosizzazione di pezzi di società italiana nel nostro paese. E quindi avere chiaro, cercare un po', ecco, di delineare di che fenomeno si tratta è importante, perché questo è un fenomeno sociale, culturale, politico. Noi abbiamo un articolo che è il 416 ter che condanna il voto di scambio politico mafioso, e come vedremo fra poco anche economico. Cosa dice a un certo punto l'articolo 416 bis? Dice che l'associazione di tipo mafioso, quando coloro che ne fanno parte, e bisogna che siano almeno tre persone che si mettono insieme per fare quello che vi leggerò, si mettono insieme e si avvalgono della forza di intimidazione, di un vincolo associativo, della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Quindi vuol dire che ci sono tre o più persone che si mettono insieme, e pensate che per entrare in un gruppo criminale mafioso c'è una selezione, cioè non è che si entra così facilmente, si entra magari per dinastia. Sei nato in una famiglia di mafia, soprattutto se sei un maschietto, è naturale, come nelle dinastie, che tu sia quello che porta avanti la stirpe, ma chi non è parte di questo viene o selezionato. Per esempio, voi sapete che chi è figlio di carabinieri, poliziotti, finanzieri, di sbirri, come dicono loro, non può entrare a far parte delle organizzazioni criminali. Così come chi è figlio di qualcuno che si dice, dal punto di vista giornalistico, pentito, in realtà si dice collaboratore di giustizia, perché lì vuol dire che sei figlio di un infame, di uno che ha tradito, quindi non garantisci quell'elemento fondamentale che è la segretezza, che è uno degli elementi che permette a queste organizzazioni di vivere. Quindi si mettono insieme e una volta selezionati fanno addirittura dei giuramenti, poi non so se c'è internet, ve lo faccio vedere, un giuramento che i ROS dei Carabinieri ha registrato non in Calabria ma in Brianza. In un ristorante questi si fermano e richiamano i tre famosi cavalieri Osso, Mastrosso, Carcagnosso, poi richiamano Mazzini, La Marmora, Garibaldi, eccetera, eccetera. Però il giuramento a un certo punto dice, guarda che tu in questo momento, giurando su queste persone e su San Michele Arcangelo, che è contemporaneamente il santo protettore della Polizia di Stato, si metteranno un po' d'accordo, e gli dicono, guarda che da oggi in poi la cosa più importante è la mafia, non è il resto. Quando il 5 novembre del 2006 arrestano Sandro e Salvatore Lo Piccolo, che sono padre e figlio, siciliani, sono per due persone che volevano prendere il posto di Bernardo Provenzano, che era stato arrestato l'11 aprile di quell'anno, Rina era stato arrestato, Bavaglia e gli altri. A un certo punto fanno il blitz a pochi chilometri dalla casa di Peppino Impastato, tra l'altro di Cinisi, e trovano un decalogo. Al punto 7 di questo decalogo c'era scritto: Cosa Nostra è più importante di tutto, anche della moglie incinta. Quindi, per dirvi che quel giuramento diventa un vincolo di sangue a vita e fortissimo, diventa un elemento di identità incredibile. E il fatto di dare così tanta identità, così tanto senso di appartenenza, unitamente al fatto in certi territori che entrare nella mafia significa prendere un ascensore sociale, e da, come dicono loro, io lo dico malissimo, mi scuso con chi magari arriva dalle terre del sud, sei nudo mischiato con niente, cioè non sei nessuno attualmente, mentre se entri dentro le persone cominciano a portarti rispetto, ti salutano, ti riveriscono, ti fanno gli sconti, non ti fanno neanche pagare in certi posti, se hai un problema di parcheggio lo trovi subito, un problema di un medico te lo risolviamo, eccetera, eccetera. Ecco, Facendo questo si lavora molto anche sul tema del consenso sociale, quindi le persone, più di tre, si mettono insieme, fanno un giuramento che li vincola. Il vincolo più importante è l'omertà, quindi quello che succede fra di noi non deve andare al di fuori di questo circuito, altrimenti la pena è garantita, cioè è la morte, è l'eliminazione. Se finisci poi arrestato subisci il carcere pesante, addirittura puoi subire il carcere a vita. Però ecco, non c'è solo una dimensione, vorrei sottolinearlo soprattutto rispetto alla terra dove ci troviamo, non c'è solo una dimensione nel quale ci mettiamo insieme, ci vincoliamo, stiamo zitti e poi cerchiamo con la paura di spaventare le persone per controllare il territorio una serie di attività. Guardate che prima di tutto questa gente cerca di, come dicono, come per esempio ha detto un importante boss di Cosa Nostra, non dobbiamo essere temuti, dobbiamo farci volere bene. Quindi c'è questa ricerca del consenso sociale. Arrivo e ti risolvo dei problemi. Arrivo e ti offro delle opportunità. Guardate che questa dimensione è stata evidenziata anche nell'inchiesta Emilia, ma vorrei dirvi anche che il tema delle presenze di queste forme di cui stiamo parlando al sud, al centro, al nord l'abbiamo scoperta più di 20 anni fa, quando in Veneto ci fu una sentenza il 1° luglio del 1994 contro la mafia del Brenta, che poi ha retto in appello e in Cassazione, dove si disse è nata una mafia autoctona, capeggiata da un signore di nome Felice Maniero, ma composta da 500 veneti. Non c'era un meridionale. Allora, quando noi parliamo di vincolo, assoggettamento, di omertà, attenzione a non collocare in maniera sbagliata e stereotipata tutte queste cose in una certa zona geografica. Perché se vi leggete Emilia, ma se vi leggete anche la sentenza d'appello, per esempio, del mondo di mezzo, di Mafia Capitale, l'interpretazione del 416 bis dice non conta da dove arrivano le persone, conta quello che tre più persone mettendosi insieme in queste modalità fanno. E che cosa fanno? Possono acquisire. Prego. A tal proposito, se vi capita, su YouTube ci sono questi brevi documentari fatti dall'associazione Cortocircuito sull'infiltrazione mafiosa a Brescello. Sono interessanti da più punti di vista, da uno in particolare, secondo me, perché ci sono le interviste fatte ai cittadini, cioè questi ragazzi, oltre a intervistare il sindaco per la scuola, a andare a cercare, insomma, il boss residente lì, vanno in paese a Brescello e chiedono: ma voi li conoscete, il grande Aracri? E le risposte delle persone sono dal no, mai visto, no no no, qui di mafia io non voglio parlare, non voglio parlare, no no no, ma la mafia è a Roma. Sono di questo tenore qui. Io ho fatto un giochino in un'aula, in una scuola, l'abbiamo fatto tradurre in siciliano sottotitolandolo, per poi far ragionare del tema della mafia, e quello che è emerso in quella discussione era la dimensione culturale, come dire, un fenomeno, e l'omertà, che è una cosa del sud. Ma quello che diceva Pierpaolo prima, secondo me è un passaggio fondamentale per capire il meccanismo delle infiltrazioni e del radicamento nei nostri territori, perché quei meccanismi lì non appartengono a un'altra cultura. Uno degli stereotipi da smontare ha anche a che fare con il tema delle infiltrazioni come il virus, cioè come se ci fosse un corpo estraneo che entra in una società sana, diversa dalle altre. Al sud sono fatti così, nasce lì e loro sono fatti così. Qui arriva il virus, il corpo è sano, il virus lo distrugge. Ma questa dimensione, questa narrazione è smentita da moltissimi fatti. Se proprio la metafora medica vogliamo usare, parliamo ovviamente di batteri, come dire, perché i batteri ce li abbiamo, poi si attivano, si disattivano, però ce li abbiamo tutti dentro. Ecco, era per sottolineare, ma se andate su YouTube, lo trovate, dura 5 minuti in un momento così a caso, rende molto bene l'idea. Sono le stesse identiche risposte che trovate negli anni 50, 60, 70 in Sicilia. nelle interviste, quando la RAI arriva le prime volte, va a Corleone, va a Palermo e chiede, no, niente Sacci, uguale a Brescello, 4 anni fa, mi pare fossero le interviste, se non sbaglio, 4 o 5. Scusa Pierpaolo. Niente. E dicevo quindi, queste persone si mettono insieme per fare che cosa, dice 416 bis? Per commettere delitti, quindi siete dei delinquenti, è logico che fate quello, e quindi poi vedremo il delitto principale, il core business è quello del traffico di sostanze stupefacenti. Poi so che stasera parliamo anche di racket e usura, dirò due cose, sono reati anche questi, però vorrei che fosse chiaro che oggi il tema delle droghe è e rimane il core business principale delle organizzazioni criminali. Okay? La stragrande maggioranza dei loro capitali arriva da lì. E poi dice, per acquisire in modo, attenzione, diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di che cosa? Di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e di procurare voti a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali. Cosa ci dice 416 bis? Che la mafia non è semplicemente una criminalità organizzata. La criminalità organizzata, questa è una grande battaglia che noi stiamo portando avanti in Europa, dove in Europa per organized crime si fa riferimento a un delitto compiuto in maniera organizzata. C'è un gruppo di persone che va a un assalto, ad una rapina, quindi pianifica come entrare, come sfondare la cassaforte, come prelevare il denaro, come scappare, eccetera, eccetera. Per loro questo è organized crime, per esempio, no? Cioè è un'attività delittuosa organizzata. La mafia non è solo questo. La mafia si distingue da altre forme di criminalità organizzata perché riesce a raggiungere i propri obiettivi, che sono l'arricchimento rapido ed impune e l'acquisizione di potere, avvalendosi di relazioni con soggetti completamente esterni al circuito criminale. Ecco il rapporto mafia politica, mafia ed economia, citato anche all'interno del 416 bis. Vi faccio una domanda. Secondo voi perché i mafiosi hanno bisogno dei politici? E di che politici hanno bisogno? Perché qui, per esempio, c'è una delle differenze che nel corso degli anni noi stiamo registrando, leggendo le inchieste, leggendo i rapporti ufficiali. Cosa fanno i politici o alcuni politici? Benissimo, prendono delle decisioni di che tipo? Legislative, bravissimo. Alcuni politici, quelli che siedono in un consiglio regionale, in un Parlamento nazionale, un Parlamento europeo, fanno le leggi. Ma possono anche non farle le leggi. Possono accelerare l'iter di una legge, ma possono anche rallentarlo. Per esempio, io posso dire che i beni confiscati vanno usati per fini sociali, oppure posso dire li metto in vendita all'asta. C'è una bella differenza, eh? Perché se li uso per fini sociali e istituzionali, mettendo come estrema ratio la vendita, magari di un garage, di un box, di un qualcosa che è difficilmente utilizzabile socialmente, do l'idea che quei beni che tu hai acquistato con dei capitali frutto della commissione di reati, di delitti, alcuni addirittura hanno portato alla morte di certe persone, diretta, t'ho sparato, o comunque indiretta, a forza di prendere droga a un certo punto muori. Io quei beni li piglio e li utilizzo per fare attività che invece i diritti li riconoscono. Nel fare questo lo Stato acquisisce credibilità e dimostra una cosa fondamentale, che i mafiosi sono battibili. No. Su questo altro esempio, no? Mi vengono in mente ascoltando Pierpaolo per l'ennesima volta. Cooperativa Valle del Marro, comune di Polistena, Piana di Gioia Tauro, ok? In Calabria, terra dei piromalli, dei pesce, dei bellocco, insomma delle famiglie più potenti di 'Ndrangheta. Quando si parla di alcune famiglie mafiose che hanno operato, della 'ndrangheta che hanno operato nel territorio emiliano, in Calabria alcuni dicono ma. Ad esempio quella persona che ha sequestrato alcune persone la settimana scorsa a Reggio Emilia nella posta, condannato, cioè, Piero Maglio, dicono, cioè, 'ndranghetista quello lì, cioè, allora, quella è la culla insieme alla Locride e a Reggio Calabria. A Polistena ci sono dei terreni confiscati e riutilizzati a fini sociali, come diceva Pierpaolo. In particolare coltivano kiwi e coltivano clementine, anche molto molto buone, che se volete peraltro si possono anche acquistare, questa è un'altra storia. Questa dimensione è inaccettabile per le famiglie 'ndranghetiste, tanto è che in questi ultimi 5 anni almeno 2 volte all'anno hanno tentato di dar fuoco agli alberi, o più, invece ci sono riusciti, di far saltare l'impianto idrico, perché ciò incide su 2 livelli. Il primo è il piano della rappresentazione, che è quello che diceva Pierpaolo, cioè, qui comandiamo noi, questa è cosa nostra tra virgolette, e io non posso accettare che ci sia un'attività che qualcun altro fa su quei terreni. 2, e questo ci aggancia al discorso criminale, quello è un patrimonio anche di tipo economico, perché quelle clementine vengono vendute a un prezzo diverso e più basso di quelle che vengono vendute sul mercato, che sono, come diceva Pierpaolo all'inizio, i cui prezzi sono sostanzialmente controllati dalla 'ndrangheta in quei territori, che controlla tutto il circuito dell'agroalimentare, dalla produzione alla distribuzione. Allora, questi temi qui hanno un valore simbolico, non indifferente, assolutamente non indifferente, e hanno un valore economico. Ecco. Certo. Quindi c'è questa dimensione che adesso ricordava anche Francesco, no? Quindi i politici assumono delle decisioni, nel senso che vi abbiamo spiegato adesso, illustrato adesso, ma i politici assumono anche la decisione di dove allocare le risorse, di dove costruire un'opera pubblica, se farla o non farla e dove farla. Quindi se tiri una riga del piano regolatore, da una parte o dall'altra un terreno agricolo che vale 1 euro al metro diventa terreno fabbricabile e ne vale 100 euro al metro. Poi chi se ne importa se è su un terreno dove può capitare sismico, franoso, non mi interessa niente, no? Se magari sotto ci hanno buttato quintali e quintali di rifiuti tossico-nocivi, no? C'è questa terribile intercettazione fatta in Campania, dove a un certo punto, a forza di scaricare porcherie che arrivavano anche dalle nostre regioni del nord, a un certo punto un soldato di Camorra dice al suo boss, dice: oh, ma basta buttare roba, perché qui è andata addirittura nelle falde acquifere, qui bere l'acqua del rubinetto e far da mangiare vuol dire che stiamo morendo, se continuiamo così moriremo anche noi, faremo morire un sacco di gente. E questo lo guarda con molta calma e gli dice: non preoccuparti, noi ci possiamo permettere di comprarci l'acqua minerale. Ecco, per darvi l'idea. Quindi questo. E poi c'è bisogno di rapporti esterni con persone che operano nel settore economico-finanziario. Perché secondo voi? E con chi? Allora, sui politici, per rispondere a una domanda che vi faceva prima, che mi faceva Francesco, è che noi siamo passati da una dimensione nella quale contava molto l'esponente politico nazionale, non è che oggi non conti più, ma con una serie di riforme che sono state fatte, per cui i centri di spesa, i centri decisionali dal centro sono stati spostati in periferia, oggi conta di più avere nelle mani un sindaco, un assessore al bilancio e lavori pubblici, anche regionale, piuttosto che un parlamentare. Poi il parlamentare, caspita se non è importante. Però il livello locale oggi ha assunto un'attenzione maggiore. Voi lo sapete che dal 1991 in Italia c'è una legge che dice, una legge di prevenzione tra l'altro, che dice: qualora ci siano dei sospetti che all'interno di un ente locale ci siano diverse cose che non funzionano, perdonatemi se la semplifico un pochettino, il rappresentante più importante del governo locale, il prefetto, può decidere di mandare una commissione d'accesso. Quindi manda delle persone di sua fiducia che cominciano a vedere se va tutto bene all'interno di quella situazione, di quell'amministrazione. Poi queste persone stanno lì un po' di tempo, redigono una relazione, il prefetto prende questa relazione, la manda al ministro dell'interno, il ministro dell'interno se la legge, la porta in consiglio dei ministri, se la ritiene importante, il consiglio dei ministri può decidere, si dice, di sciogliere per mafia un comune. Se il consiglio dei ministri delibera, ci sarà un decreto del Presidente della Repubblica che stabilisce questo, poi ci si può ricorrere al TAR, Consiglio di Stato, eccetera, eccetera. Ma noi abbiamo avuto più di 200 comuni sciolti per mafia, signori, nel nostro paese, dal 91 ad oggi. E abbiamo cominciato a registrare scioglimenti per mafia anche nelle regioni del nord. Tu ricordavi Brescello, ma ci fu una commissione d'accesso fino all'Emilia, non so se ve lo ricordate, e lì hanno evitato, diciamo, di un soffio lo scioglimento. Sono stati sciolti comuni in Lombardia, in Piemonte, in Liguria. Il primo comune sciolto per mafia al nord è stato a Bardonecchia in Piemonte nel 1995. Quindi questo per dirvi che è un dato oggettivo. Io inizio a darvi qualche dato, qualche, diciamo così, vi invito a buttare l'occhio non solo sul codice penale. Quante persone hanno arrestato? Quante persone hanno condannato? Quelli sono indicatori importanti, ma noi dobbiamo metterci degli occhiali diversi per capire anche la presenza delle mafie nei nostri territori. Allora, questo è un indice. Cosa succede nei comuni? Quante commissioni d'accesso sono state attivate? Quanti comuni sono stati sciolti? I politici locali sono importanti. Poi c'è il pezzo dell'economia. Ho bisogno di imprenditori. Io faccio un sacco di soldi. I soldi come li fanno? Ve l'ho già detto, con la droga. Un piccolo dato per darvi l'idea del fattore moltiplicatore della ricchezza. Un chilo di cocaina in Sud America viene comprato dall'Andrangheta. Parlo dell'Andrangheta perché è attualmente, diciamo, l'organizzazione mafiosa che ha saputo espandersi maggiormente, non solo in Italia ed è presente in questa regione, ma anche in altri paesi europei, ma anche per una ragione molto semplice: i legami che collegano tra di loro i mafiosi che fanno parte di questa organizzazione criminale sono legami di sangue veri e propri, padre figlio, fratello sorella, zio zia. Quindi capite che il tema dell'omertà è più facilmente conservabile e difendibile rispetto a Cosa Nostra, che parla anch'essa di famiglia. Cosa Nostra è mafia siciliana, ma la famiglia è un gruppo di persone che magari non hanno neanche rapporti di parentela fra di loro, ma che si mettono insieme per delinquere. Vi dicevo, questi rapporti con l'economia. Questo chilo di cocaina in Bolivia lo comprano direttamente loro, trattano direttamente loro quei cartelli e lo pagano 1.000 euro. Dopodiché, attraverso l'attività corruttiva, ecco Mario, ben arrivato, attraverso l'attività corruttiva riescono ad imbarcarlo su treni, su navi, su aerei, addirittura su dei sommergibili costruiti ad hoc che attraversano l'Atlantico. Quando quella droga dal Sud America arriva in Europa, e arriva generalmente o in Olanda, porto di Amsterdam, o in Spagna, quel chilo di droga è arrivato a 20.000 euro. Quel chilo di droga che parte dall'Olanda, dalla Spagna, arriva in Italia. La piazza più importante di spaccio, di traffico di sostanze stupefacenti in Italia è Milano. Quei 20.000 fanno 40.000. Da un chilo di cocaina, non so spiegarvi come, ma fidatevi perché l'abbiamo letto su la relazione della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno, un chilo di cocaina tagliato ne produce 4,5. Un grammo di cocaina sulla piazza milanese va dagli 80 ai 100 euro. Questo vuol dire che settimanalmente questi signori fanno milionate di euro. e fatto 100 il fatturato, 30-35 serve per mantenere l'impresa criminale. Devi pagare degli stipendi, devi pagare gli avvocati che ti difendono, devi, c'è un welfare anche nel sistema mafioso, proprio per difendere il consenso sociale e l'omertà. Devo mantenere le famiglie dei carcerati, devo comprare le armi, e mi servono anche quelle per fare le cose. Ma un 65-70% va a finire dove? Nel circuito dell'economia legale. E allora gli imprenditori mi servono perché, per esempio, gli imprenditori, crisi importante qualche anno fa, 10 anni fa, se sei un piccolo e medio imprenditore che non ha saputo magari innovarsi, razionalizzare, migliorare i propri processi produttivi o quant'altro, magari sei a corto di liquidità. In base ai parametri di Basilea 3, 4, 5, non so neanche quanto siamo arrivati adesso, magari non ti danno più i soldi. Io arrivo da una regione che è il Veneto, dove abbiamo avuto 35 persone che si sono tolte la vita, ex operai, la maggior parte dei casi diventati piccoli e medi imprenditori, perché non ce la facevano più. Quindi il fallimento dell'azienda era vissuto, è stato vissuto anche come un fallimento di una vita, non come magari da altre parti, ho sbagliato, ho fallito, riparto. Bene, cosa succede? Indagine Aspide, DDA di Venezia. Arriva un gruppo di camorristi da Casal di Principe, legati casalesi, comprano una società di recupero crediti e di finanziamenti, dove nella periferia di Padova, no, in centro a Padova. Poi trovano, secondo elemento di cui le mafie si servono, dei liberi professionisti. I quali liberi professionisti cosa fanno? Anziché difendere il cliente, portano il cliente dai mafiosi. Perché il mafioso dà i soldi. Ecco il tema dell'usura, Giulia. Ma a differenza del cravattaro classico di quartiere, do soldi per far soldi, l'usuraio mafioso dà soldi per impossessarsi dell'azienda. Questa è la finalità. E quando io mi impossesso di un'azienda su un territorio, e magari quel territorio ha altre aziende in difficoltà, comincio a comprarmele. Quindi comincio ad avere un ruolo importante di condizionamento di quel mercato, ma comincio anche ad avere un ruolo di condizionamento di controllo del territorio dove le aziende sono, insistono, dove sono presenti. E allora capite che quest'area grigia è fatta di pezzi di politica, di pezzi di mondo delle libere professioni, di pezzi di imprenditori che non solo sono quelli che ne hanno bisogno, ma ci sono imprenditori, come è successo anche in questa regione, che accettano le proposte mafiose, o addirittura cercano i mafiosi, perché i mafiosi risolvono dei problemi. Ti danno i soldi, ti proteggono se serve, quindi noi abbiamo assistito a certe situazioni nelle quali a dei bandi di gara per costruire opere pubbliche, strade e quant'altro, Mario poi magari ve ne parlerà, in Lombardia, quando si sentivano che c'erano i nomi di certe imprese e nell'ambiente si sapeva che dietro quelle imprese c'era l'andrangheta, non partecipavano più, per timore di ritorsioni agli operai, ai mezzi, eccetera, eccetera, no? E così via. Quindi parliamo di cose reali, c'è anche una domanda di servizi di mafia da questo punto di vista. E poi ovviamente ci sono pezzi sul commercialisti, tu hai già fatto vedere questa signora di Bologna, ma ci sono pezzi di mondo bancario che pensano che viga il principio del pecunia non olet, cioè che del denaro non ha odore, mentre il denaro l'odore ce l'ha, e come se non ce l'ha. Qui a Bologna il 12 luglio dell'anno scorso hanno arrestato un direttore di banca qua vicino alle due torri, perché era un direttore di banca che aveva messo insieme che offriva una serie di servizi a gruppi legati all'andrangheta. Ma qualche mese fa la stessa cosa è successa a Vigonza, in provincia di Padova, dove un direttore, un vice direttore di banca, hanno attivato una serie di carte di credito che facilitavano il riciclaggio di denaro sporco. Dulcis in fundo, politici, imprenditori, liberi professionisti, persone del mondo bancario, è l'altro grande elemento che dà forza alle mafie, insieme al consenso sociale, alla ricchezza materiale, è l'impunità. Io ho bisogno di persone che per esempio, mi dicano se qualcuno sta indagando su di me, che mi aiutino a scappare, che mi aiutino a ridurre le pene. Quindi noi abbiamo avuto anche casi di arresti di rappresentanti delle forze dell'ordine, che erano a libro paga dei mafiosi, anche nelle terre del centro-nord Italia, addirittura di alcuni magistrati. Non voglio fare il nome, ma anche qui rimandiamo a internet. Qualche tempo fa nel nostro paese si è ucciso il presidente delle misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, che l'Andrangheta si era comprata garantendogli dei voli settimanali a Reggio Calabria a Milano, lo mettevano in un bellissimo albergo, gli davano una escort, gli regalavano qualche massaggio, qualche altra cosa. Questa persona cosa doveva fare? Doveva evitare di toccargli la roba. Allora un mafioso mette in conto di andare in carcere, ma non toccategli i beni confiscati. Ecco perché io torno sul tema dei beni confiscati e su quanto è importante che siano e che si continuino ad usare per fini sociali e istituzionali, e che le imprese siano utilizzate, quelle che sanno stare sul mercato, quelle che non sono delle lavatrici, continuino ad essere utilizzati in maniera importante. Anche qui qualche dato: volete sapere qualche cosa sui beni confiscati? Andate a vedere il sito dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, ansbc.it. Cosa ci dice? Che oggi in Italia ci sono 17.524 beni in gestione, più di 14.000, quasi 15.000 destinati. Di questi vi do i dati sull'Emilia Romagna: 625 sono in gestione, 144 sono destinati, ma queste cifre sono destinate ad alzarsi dopo Emilia ed altri procedimenti che vanno in corso. Quindi cosa vuol dire questo? Che per esempio i comuni emiliani dovranno attrezzarsi un po' di più, perché per l'86% dei casi i beni confiscati, il loro utilizzo passa attraverso i comuni, che poi o li usano loro o li danno in gestione a società, a cooperative, ad associazioni o quant'altro. Quindi il fatto che le mafie non siano solo organizzazioni criminali, ma siano imprese che mettono denaro nel sistema economico legale, ce lo dice per esempio questo dato sui beni confiscati. In Emilia Romagna ci sono attualmente 95 aziende confiscate e in gestione dell'Agenzia Nazionale, e 13 sono state destinate. In tutta Italia sono più di 3.000 quelle in gestione e quasi 1.000 quelle già destinate. Quindi questa è una presenza tangibile, verificata, delle mafie nel settore economico. Poi c'è un altro indicatore che io vi invito a guardare, che è il numero delle operazioni finanziarie sospette. Avete visto prima quel signore, Claudio Clemente, direttore dell'unità di informazione finanziaria, un ufficio specializzato della Banca d'Italia che si occupa, poi Mario ve lo spiegherà bene, di capire se i flussi di denaro sono puliti, oppure c'è qualche sospetto, e quindi di passare la palla alle autorità competenti per andare a indagare. Bene, noi, secondo l'ultimo rapporto annuale della UIF, l'anno scorso ci sono state più di 40.000, 44.000 circa operazioni finanziarie sospette. La prima regione è la Lombardia, poi c'è il Lazio, poi c'è la Campania, poi c'è l'Emilia Romagna. Dove vado quindi io a riciclare denaro? Vado dove il denaro circola. È paradossale che oggi l'Andrangheta è considerata non solo l'associazione criminale mafiosa più forte, ma la più ricca. Se andiamo a vedere i dati Istat sulla condizione delle famiglie in Italia, vediamo che la Calabria è tra le regioni più povere, con un'Andrangheta che è invece straricca. Ma l'Andrangheta non investe nei propri territori, anzi li opprime. Va a investire fuori da quei territori, ma quei territori dove va a investire nel centro-nord, se non si svegliano, prima o poi saranno vessati anch'essi. Questo è un pericolo su cui noi dobbiamo stare attenti. Delle operazioni finanziarie sospette, ce ne sono state censite più di circa 4.400 in Emilia-Romagna, di queste 594 riferibili alla criminalità organizzata. Ripeto, dato della UIF. Ultimo dato e chiudo. Le interdittive antimafia. L'interdittiva è un'altra misura di prevenzione, una misura amministrativa che viene messa dalle prefetture e riguarda imprese che per una serie di ragioni, chi le gestisce, come operano, da dove arrivano i finanziamenti, raccogliendo una serie di informazioni, il prefetto dice guarda, qua non ci siamo, non va proprio bene, tu impresa non puoi lavorare con la pubblica amministrazione, quindi per un certo periodo di tempo sei fuori da questo mercato, quindi vuol dire incidere pesantemente sulla vita di un'impresa. Tenete presente poi che i mafiosi operano soprattutto nel settore dell'edilizia, nel settore dei trasporti, nel settore del gioco e così via, quindi ci sono settori nella sanità. Ci sono settori che hanno a che fare in maniera importante con la pubblica amministrazione, quindi ricevere interdittiva è una roba pesa. Ecco, l'ultima relazione della Direzione Investigativa Antimafia, che è un organo importante promosso da Giovanni Falcone agli inizi degli anni 90, nel 91, pochi mesi prima di essere assassinato, l'ultima relazione semestrale della DIA, la trovate su internet anche questo, oppure possiamo far avere ai nostri amici una bibliografia ragionata e una sitografia ragionata, così vi facilitiamo, ci dice che in Emilia Romagna nel 2017 sono state emesse 29 interdittive antimafia. L'inchiesta Emilia parte da una serie di interdittive antimafia fatta dalla prefetta Antonella De Miro, che adesso è prefetta di Palermo, che aveva capito prima anche di pezzi di magistratura che delle cose non tornavano. E pensate, quindi, da una misura di tipo amministrativo e di prevenzione è partito e si è scoperto non una infiltrazione, ma un radicamento. Quindi vuol dire non solo che sono arrivati, ma che sono arrivati tanto tempo fa, che si sono inseriti nella società e si sono inseriti perché non tutti, per paura, per connivenza o per complicità, hanno permesso loro di radicarsi e di espandersi. Quella è una delle leggi che ha contribuito a diffondere. Il problema però qual è stato, dottoressa? Che quando queste persone sono arrivate al soggiorno obbligato, sono stati due elementi. Primo, non è che hanno messo una persona importante in un posto e un'altra sua affiliata da un'altra parte, li hanno messi vicini. E quindi che cos'è successo? Come a Torino, Genova e Milano negli anni del boom economico, tiravano sui condomini i veneti, gli emiliani, i meridionali, no, quindi erano mondi a sé. Quindi questi li hanno spostati, ma hanno messo tutti in un arco spaziale ravvicinato e questi hanno creato a volte delle micro comunità che riproducevano esattamente le stesse dinamiche, le stesse relazioni sociali dei posti di provenienza. Ma, finisco, ma è indubbio che poi hanno trovato qualcuno che qui ha deciso di fare affari con loro. Ieri sera, altro input, 9, il canale La 9 ha trasmesso un'intervista di Roberto Saviano a Felice Maniero, d'accordo? E Felice Maniero, che molti pensavano appunto, cioè è un delinquente, è stato un mafioso lui, è un mafioso secondo me tuttora, anche se ha collaborato nei suoi libri e quant'altro, e lui lo dice candidamente, dice ma io avevo delle persone che mi chiedevano delle cose. Mi chiedevano i soldi, mi chiedevano dei favori, mi chiedevano delle... Ma i favori, signora, andavano da famiglie che avevano le figlie che studiavano a Padova e avevano bisogno di un appartamento. E lui glielo trovava. Oppure lui aveva una piscina e due campi da tennis e andava dal prete di Campolongo Maggiore e diceva di a tutte le famiglie che il sabato i tosati, così li chiamava in dialetto veneziano, padovano, possono venire a gratis qui a nuotare. Anni 70-80, non è che c'erano tante piscine come oggi, ma tanti di quei bambini, di quelle bambine, poi sono diventati tossicodipendenti. Triplicato il numero dei tossicodipendenti tra Padova e Venezia, fine anni 70, fine anni 80. Quindi c'è stato anche un pezzo di società del centro-nord, non solo di popolazione, ma di persone che operavano nei settori che ho accennato prima, che i mafiosi non li hanno rifiutati, d'accordo? Anzi, hanno trovato in alcuni casi conveniente fare questi passaggi. Io mi fermerei qui. Dico sì, solo un secondo che finisco un pensiero, le chiedo scusa. Qual è stata, e chiudo, l'ultima trasformazione? Abbiamo parlato della politica, abbiamo parlato dell'imprenditoria. L'ultima trasformazione è stata quella che dopo le stragi del 92, Capaci e Via D'Amelio, ma io vi invito a non dimenticare mai che un anno prima, nel 91, uccidono Antonino Scopelliti, giudice calabrese che doveva sostenere l'accusa in Cassazione nel maxi processo, che poi vinceremo perché la Cassazione confermerà l'impianto del maxi processo. Le bombe sono state messe nel 93 a Firenze, via dei Georgofili, a Milano e a Roma. Cosa Nostra, la mafia siciliana, aveva alzato il tiro talmente, in maniera talmente forte, anche con modalità eclatanti, che lo Stato ha reagito in maniera importante. Quindi cosa si è capito? Che la violenza è un elemento fondante delle mafie, ma va usata con molta parsimonia, quando serve, proprio quando non si può raggiungere l'obiettivo dell'arricchimento, dell'impunità in altre maniere. Prima di intimidire, prima di sparare, prima di minacciare, si può fare un'altra cosa, che è corrompere. Tutti hanno un prezzo, ha detto un boss mafioso. E noi cosa succede? Se ci compriamo una persona, mica la gente si spaventa. Anzi, se io mi compro un sindaco, un assessore, un dirigente di un comune, un funzionario, lo sappiamo io e lui. Formalmente la facciata democratica delle istituzioni si salva, poi magari cominciamo a capire con certe scelte, certe situazioni che si verificano, che forse i conti non tornano. Ecco Francesco, la corruzione è diventata oggi, lo scrive anche la relazione ultima della Direzione Nazionale Antimafia, che parla di metodo corruttivo collusivo, è diventato lo strumento principe di gestione delle relazioni e degli affari da parte delle mafie, sia in Italia che in pezzi anche di paesi esteri, dove non esiste neanche un reato come il 416 bis, perché si fa fatica a capire che le mafie non sono solo un problema criminale di ordine pubblico, sono un qualcosa di più articolato e di più complesso. Le chiedo scusa, ma volevo finire il pensiero. Certo. Un prestito che io indico sull'oggetto, lo stesso come società. Quindi come fanno a giustificare da dove la provenienza di questo? Beh, ci sono i famosi prestanome. È logico che, poi lascio la parola a Mario, che lui è un esperto di antiriciclaggio, è logico che chi ha una fedina penale lungo un chilometro di reati non è che va ad esporsi, però trova persone, realtà, studi di consulenza che creano, diciamo così, società a cui vengono intestati tutta una serie di beni, quindi queste persone agiscono nella legalità. Sì, certo, adesso Mario vi spiegherà come fare, come si può fare. Allora, grazie Pierpaolo di questo intervento che inquadra bene il passaggio successivo. Tre cose veloci. La prima, rispetto a quanto diceva la signora sul tema del confino, che è un tema che ritorna tantissimo in vettura dell'infiltrazione al nord. Anche in questo caso secondo me è interessante provare a mettere in atto un ragionamento che è ricorsivo, dove indubbiamente è vero che i mafiosi portati al nord influiscono sul contesto, ma anche viceversa che quel contesto influisce sui comportamenti dei mafiosi che li arrivano. È una dinamica ricorsiva, e lo scrive bene Vittorio Mete, che è uno storico delle organizzazioni criminali. Lo scrive il 4 di novembre 2018, all'indomani della sentenza Emilia, proprio all'intervistatore. Questo articolo lo trovate sulla Gazzetta di Reggio, basta cercarlo su Google, lo trovate subito. Io ve ne leggo un pezzettino perché non voglio dire stupidaggini. Mi riferisco all'ormai famigerato soggiorno obbligato di Antonio Dragone a Quattro Castella, da tutti indicato come il motivo, con la M maiuscola, della presenza 'ndranghetista a Reggio Emilia. In verità, nello studio che ho dedicato proprio ai processi di radicamento della 'ndrina di Cutro in Emilia, e cita i testi, mi sono reso conto che la presenza di dragoni in Emilia non è la causa dell'espansione criminale cutrese, bensì semmai l'effetto di tale espansione. Dragone riesce a farsi mandare al soggiorno obbligato in un luogo dove ha già dei contatti, con grande rammarico dell'allora comandante della compagnia dei carabinieri di Crotone, che a tal proposito dirà: lo abbiamo estirpato da un ambiente nel quale può muoversi a suo piacimento, sicuro di amicizie e protezioni, per essere avviato praticamente in un'altra Cutro. Per dire come è un rapporto biunivoco, ecco. Che non è una rete necessariamente criminale, perché come raccontano ad esempio proprio Vittorio Meta, Rocco Sciarroni, in questi studi loro raccontano come le prime dinamiche di usura in Emilia sono neanche sui corregionali, sono sui concittadini, perché sui concittadini dire io sono dragone può fare paura, dirlo a un abitante di Brescello fino a un certo punto, però per dire come quello è un tema, ma non va letto come univoco, solo questo, non che non lo sia. Allora, queste due cose, allora, provo a riassumere due cose secondo me fondamentali per dare la parola a Mario, che ringrazio per essere arrivato. Purtroppo ho avuto dei problemi col treno, come dicevo prima. Il tema della quantità di risorse che si mette dal mercato illegale al mercato legale, usato quantomeno con due finalità. La finalità della costruzione del consenso. Non dimenticatevi che a sud, in alcune regioni, in questo momento, la mafia in alcune situazioni presta risorse, presta denaro gratis, senza neanche chiederlo di avere più indietro. Non è interessata in alcuni contesti al vecchio modello dell'usura, perché con quel denaro, con la disponibilità che ha di denaro, appartamenti, costruisce consenso sul territorio. Usata per costruire contesto, usata per inserirsi nel circuito dell'economia, con meccanismi arcaici, come diceva Pierpaolo, moderni, come diceva sempre Pierpaolo, su scale molto diverse, perché le mafie non sono tutte uguali, la 'ndrangheta non è tutta uguale a se stessa. Per cui abbiamo le infiltrazioni nelle aziende, che sono uno dei meccanismi, perché io entro, presto denaro, tu il denaro non me lo puoi restituire, io mi prendo l'azienda, ma non mi prendo l'azienda intestandomene la proprietà. La proprietà rimane a te, che sei pulitissimo, che mi interessa a me. Però tu sei legato, vita, morte, miracoli a me, e lo sei sul profilo economico, io ho riciclato il denaro, ma per tornare a ciò che diceva Pierpaolo e a quel che dicevo un attimo fa, è consenso anche quello, perché un'azienda, 100, 200, 300 dipendenti, sono 100, 200, 300 posti di lavoro che io governo, il governo fuori da qualsiasi meccanismo di concorrenza con il resto del mondo delle altre aziende, che sono soggette a vincoli che io evidentemente non ho. Vanno su questi livelli, ultima cosa prima di dare la parola, e vanno su livelli elevati. Si parlava per poi ormai del circuito bancario. Ora io lancio questo secondo video e lascio parlare la parola a Mario Turla, che è un esperto di antiriciclaggio, che ha lavorato con Avviso Pubblico, ha lavorato con moltissimi comuni, tra cui il comune di Milano, con l'università, per aiutarci a descrivere meglio il fenomeno e qualche possibile soluzione. Lancio solo il video e do la parola. Con i tempi del computer. Sono molte le grandi banche accusate di aver riciclato denaro sporco nel conto di 10 anni. Tra queste la Deutsche Bank tedesca, l'HSBC inglese, la Citibank e la Bank of America negli Stati Uniti. Ma il caso più famoso è forse quello della banca Wachovia, accusata nel 2010 dal Dipartimento del Tesoro americano di aver riciclato 358 miliardi di dollari provenienti dal traffico di droga. Tutte quante queste banche sono state accusate, tutte quante hanno riconosciuto di aver partecipato nel riciclaggio di denaro illecito e tutte quante sono state punite, pur se in maniera irrisoria rispetto al reddito che queste banche generano. Il fatturato delle attività criminali nel mondo è enorme, è diventata una grande azienda, forse la più grande nel mondo globale. I proventi delle attività sono poi riciclati nel mondo finanziario, al punto tale che in passato, continuo a dirlo, e non sono proprio i mafiosi che cercano i banchieri attraverso i quali riciclare i propri proventi, ma sono i banchieri, soprattutto all'epoca del disastro finanziario del 2008, un disastro caratterizzato da mancanza di liquidità, mancanza di fondi, a quel punto sono stati i banchieri che hanno cercato e continuano a farlo la criminalità organizzata per riciclarne i profitti. Per riciclare il denaro sporco ci sono poi i paradisi fiscali. Costruire una società fiduciaria non è difficile, basta affidarsi alle persone giuste e scegliere un paese che garantisca l'anonimato più assoluto. Il Bademecum si trova sul web. Il prezzo per dare vita a una società offshore è di $900. Un conto in banca costa $500. Una carta di debito anonima con pagamento in nero 200. Un conto e-commerce finalizzato alle transazioni via internet $100. Oltre ai paradisi fiscali. Questa era per darvi un esempio della vastità, dalle piccole aziende a il rapporto con le banche, con dei mediatori nel mezzo, perché un elemento è che comunque a tutt'oggi queste mafie tentacolari, una delle altre grandi narrazioni che va un po' messa tra parentesi è accanto a quella del mafioso con la coppola, è quella dei i figli dei mafiosi pare che vadano tutti ad Harvard, non funzionano così, anche se hanno rapporti con le banche, come abbiamo visto, perché uno degli elementi è che loro tanto più sono in grado di infiltrarsi nell'economia, nelle aziende, quando queste hanno un livello di know-how basso. Il circuito degli inerti, i ristoranti, il settore del turismo, quel tipo di aziende non richiedono un know-how elevato, che loro non sarebbero in grado di mettere in campo. E questo è dimostrato e si lega ai dati di Transparency International, perché Transparency International fa una cosa interessante. Prende i dati sulla percezione della corruzione e li mette accanto ad altri dati. E quello che emerge è che i paesi in cui c'è la più alta percezione della corruzione sono i paesi in cui c'è il più basso tasso di investimenti in tecnologia, nelle aziende e nello Stato. I paesi in cui c'è la più alto tasso di corruzione percepita, sempre di quella parliamo, sono i paesi che hanno i livelli di istruzione più bassi. Quindi ancora torna questa capacità di stare su più livelli e il bisogno per noi di mettere in campo letture su più livelli. Mario, ci aiuti a entrare nelle dimensioni anche più pragmatiche del tema del riciclaggio, usura, controlli, cosa si può fare? Va bene, intanto mi scuso del ritardo, però sono arrivato, ok. Allora, entriamo immediatamente e tentiamo di dare delle risposte, se non proprio pienamente, ma almeno speriamo di dare delle risposte a qualche domanda che sono state date. Intanto io parto dalla definizione economica della corruzione. Che cos'è la corruzione? La corruzione, gli economisti la definiscono come il monopolio più la segretezza meno la responsabilità civile e penale. Cosa significa? Significa, qua parliamo di sia corruzione pubblica che privata, che chi occupa una posizione di monopolio decisionale ed è segreto il proprio modo con cui prende le decisioni, più è alto e la probabilità di corruzione. La cosa che lo fa scendere è la responsabilità civile e penale. E questo, questa è una probabilità. E allora passiamo subito a una provocazione. C'è stata una prova, diciamo, hanno fatto un esperimento, hanno domandato più persone se trovavano una busta con dentro dei soldi in un posteggio e sapevano che nessuno li aveva visti, come si sarebbero comportati. E la risposta è che almeno il 50% ha detto boh, non so se proprio riconsegnerei la busta. Cambiando soltanto una piccola particolarità, cioè che c'è stato un 30% di possibilità che una telecamera abbia visto che la persona ha raccolto la busta, immediatamente la risposta cambia. Più di circa il 74-75% delle persone dicono che avrebbe riconsegnato la busta. Che cosa significa questo? Significa che per far rispettare una regola ci vogliono tre pilastri fondamentali. Uno è la condivisione della regola. Se noi fossimo tutti con una responsabilità civile e penale molto alta, non ci sarebbe bisogno né di sanzioni né di niente, perché condividendo la regola la rispettiamo. Un esempio c'è stato, per esempio, con l'introduzione del divieto di fumo nei locali pubblici. Se voi avete notato, come si è introdotto il divieto di fumo nei locali pubblici, la gente ha smesso di fumare, ma non perché sono state date delle sanzioni, perché le persone condividevano la regola. Anche i fumatori sapevano che davano fastidio, o chi alla mia età si ricorda negli uffici, addirittura le tastiere dei computer che saltava sulla cenere, no? Ora non si fuma più negli uffici, non si fuma più nei ristoranti, ma non perché sono state date sanzioni, perché c'è una condivisione della regola, come il casco sul motorino. Però in alcune regioni o luoghi di questo paese il casco non si mette, proprio per una questione di non condividere la regola. Secondo pilastro è la sanzione che io prendo. E per esempio nella corruzione, sia la corruzione che la concussione hanno delle sanzioni molto alte in Italia, ma questo ha fatto in modo di sconfiggere la corruzione e la concussione? Pare di no. Perché questo? Perché è bassa la probabilità che io venga scoperto se io faccio questo tipo di reato. E quindi il terzo pilastro, che non deve mai mancare, è la probabilità che io venga scoperto, quindi i controlli. Quando noi andiamo con la macchina, per esempio, da Milano a Bologna, c'è un cartello che mi dice state andando a 180 all'ora, 150, 100, eccetera, eccetera, e psicologicamente dentro ognuno di noi dice ma qualcuno sta vedendo che io sto facendo questa cosa, e quindi magari rallentiamo. Quindi il controllo, anche indiretto, fa in modo che le persone rispettano. Perché io vi dico queste cose? Perché voglio introdurvi un fattore che dopo capirete che cosa c'entra con il riciclaggio, con l'organizzazione criminale, con tutto il resto. L'evasione fiscale. L'evasione fiscale viene stimata, perché nessuno sa bene quanto è, in una cifra enorme, tipo quasi un centinaio di miliardi. Tutte le stime sono basate sulla circolazione del denaro contante, cioè il denaro contante contribuisce alla stima dell'evasione fiscale. Quindi il denaro contante sono dati Istat, ma l'evasione fiscale principe è quella più misurabile che fanno tutti gli stati, è l'IVA. Noi viaggiamo sempre costanti su circa 40 miliardi di evasione fiscale dell'IVA. L'IVA è la principale evasione fiscale, perché da l'IVA io vado l'IVA, poi vado l'IRPEF, non dichiaro, eccetera eccetera, ed è tutta una catena. E la tax gap che viene fatta sull'IVA è facile da fare, perché se io ho un PIL, ho una ricchezza, mi aspetto una tassa sul valore aggiunto in qualche modo, e quindi la stima dell'IVA è una stima realistica che fanno tutti i paesi, e noi purtroppo viaggiamo con una cifra costante molto alta. L'evasione fiscale in Italia è costante, cioè è tutta l'Italia si comporta allo stesso modo? No, noi siamo un paese molto polarizzato, un paese che è spezzato in due, è inutile nascondercelo. E vediamo che alcune regioni, come questa, come la Lombardia, come il Veneto, come tante altre, hanno dei comportamenti. Altre regioni hanno altri comportamenti. Per esempio la Calabria. E la Calabria è proprio il posto dove nasce l'Andrangheta, dove l'Andrangheta controlla il territorio. Ma provate a pensare, un territorio dove c'è un'evasione fiscale enorme, che territorio è? È un territorio dove c'è il lavoro nero, dove non si rispettano le regole, dove la società è degradata. cioè l'indicazione d'evasione io la chiamerei anche un indicatore di livello sociale quasi, cioè dove c'è alta evasione c'è basso livello sociale, perché la gente non accetta o ritiene che lo Stato mi rubi i soldi, o in ogni modo si fa così, lo fanno tutti, così fanno tutti. Questa è una slide che non piace, e quello che fa ridere, so che l'hanno tolta poi, una cosa, quello che fa ridere è uno studio della Banca d'Italia sulla regione Lombardia, l'economia della regione Lombardia, e incredibilmente ci dice: la regione Lombardia ha qualche anno, ma dopo non è mai cambiato, poi è sparita. Lei dice, la regione Lombardia, dove le aziende della regione Lombardia, dove spendono i loro soldi, dove portano i loro soldi all'estero, naturalmente questi sono flussi di denaro tracciati, non sono quelli non tracciati, e flussi di denaro tracciati, dove arrivano, da che paese arrivano in regione Lombardia, chi sono i paesi che investono in regione. E la cosa interessante, si vede che il primo paese che investe in regione Lombardia è il Lussemburgo, con 24 miliardi all'anno, stiamo parlando, è seguita dalla Francia. Allora la Francia la si vede nel territorio, io vedo ipermercati francesi, sono comprati banche, ultimamente credo che l'inese è passato sotto controllo francese, lo vediamo, lo percepiamo, si stavano quasi comprando Mediaset, cioè percepiamo che soldi da quel paese arrivano e si stanno comprando tutto quello che possono comprare, ma lo seguito io non penso. E qua forse qualche risposta alla signora di dove arrivano i soldi. Lussemburgo è un paese della comunità europea, quindi teoricamente in white list, perché rispetta tutte le norme della comunità europea, che però ha delle caratteristiche. Per esempio, forse magari voi lo saprete sicuramente, però alcune delle aziende bandiera italiana, come la Ferrero, sappiate che la Holding è in Lussemburgo, un'azienda lussemburghese, non è più un'azienda italiana, ma da tanto tempo è un'azienda lussemburghese. E tante altre aziende che noi pensiamo che siano assolutamente italianità. Assolutamente. Quest'altra slide è proprio per incuriosirvi, è proprio una slide che dimostra che il controllo paga. Che cos'è questa slide? È la dichiarazione che facevano gli importatori dei containers dalla Cina per chilogrammo. Cosa significa? Significa che quando arriva nel porto un container non è che si possono aprire tutti e controllarli, dichiarano cosa c'è dentro, il valore che c'è dentro, per sdoganarli, no? E all'aumentare dei controlli, la linea rossa e l'Italia hanno aumentato il valore della merce dichiarata all'interno del container. Siamo passati da 5 a 21 euro di media. Quindi il controllo ha degli effetti. Forse il controllo fa bene. Altra cosa è che l'estero vestizioni, in che paese abbiamo trovato l'estero vestizioni principalmente? L'estero vestizioni sono vestire un'azienda e trasferire la sede dell'azienda in paesi dove ho convenienza, e la convenienza è pagare meno tasse. I paesi principalmente sono Lussemburgo e la Svizzera. Quindi uno è addirittura in comunità europea e l'altro è un paese che conosciamo molto bene, ci confiniamo addirittura. Quindi un'altra cosa che voglio dirvi è una cosa che è carina, storica, no? Nel senso, si dice che la Svizzera è diventata, quando la Svizzera diventa un paradiso fiscale, no? Uno pensa che sia sempre stato un paradiso fiscale, girano varie storie, addirittura che è stato un bene perché ha raccolto i soldi degli ebrei, in ogni modo vessati dal nazismo e dal fascismo. In verità storicamente è stato provato da uno studio recente che la Svizzera diventa paradiso fiscale significativo, nel senso che è sempre stato un paese a tassazione bassa, ma diventa un paese fiscale significativo alla fine della prima guerra mondiale, perché finita la prima guerra mondiale c'erano i debiti di guerra e di conseguenza nazioni come la Francia, la Germania che aveva perso, altre hanno alzato le tasse e le persone benestanti, ricche, non volendo pagare questo contributo della guerra, hanno spostato i capitali dove potevano pagarli meno. E la Svizzera diventa paradiso fiscale in quel momento. In quel momento diventa un paradiso fiscale significativo. Altro momento in cui la Svizzera incrementa il suo core business principale è alla fine della Seconda Guerra Mondiale, per lo stesso motivo. Noi italiani siamo dei consumatori dei servizi della Svizzera, che sono principalmente l'efficienza del sistema finanziario. Quando si parla di efficienza del sistema finanziario, si parla principalmente di pagare meno tasse, perché il costo dei servizi è molto più alto. Cioè, tenere un conto corrente in Svizzera, pagare i servizi, i bonifici, i servizi che vengono offerti sono molto alti, ma il vantaggio è che io pago meno tasse, quindi sono disposto a pagare più il costo del servizio, ma contribuisco meno al mio Stato, perché eticamente penso che sia giusto così. Quindi c'è una questione etica nel paese, c'è una questione etica nella classe dirigente di questo paese. Dove hanno trovato, e dopo arriviamo alle mafie, per uno dite, è venuto a parlare di evasione fiscale? No, non sono venuto a parlare di evasione fiscale. Dove hanno trovato gli evasori totali? Li hanno trovati principalmente nel commercio e nelle costruzioni. Ma il commercio e le costruzioni, forse i comuni sanno qualcosa. Siamo in una sede di uno splendido comune, io ho vissuto in questo comune un anno, tantissimi anni fa come studente, e sono orgoglioso di stare qua, ma i comuni sanno di costruzione e di commercio. E allora ecco perché parliamo di evasione fiscale? Perché le organizzazioni criminali, mafie, chi è più esperto di queste cose ve l'ha spiegato, ve lo spiegherà meglio di me, hanno capito e sono entrate in un contesto, in una situazione in cui sono diventate dei fornitori di servizi, fornitori e nello stesso tempo consumatori. E quindi le varie mafie danno servizi, danno aziende cartiera, possono fare fatture false quando mi servono. Cos'è un'azienda? L'azienda cartiera è un'azienda che fa fatture false. Voi dite, cosa servono le fatture false? Una fattura falsa vale più dello spaccio della droga, perché se io faccio una fattura da 100.000 euro ho una compensazione di 22% di IVA. 22% di IVA sono 22.000 euro fatte in un minuto. Questo io la compenso con tutto, con la dichiarazione INPS, con eccetera eccetera. È liquidità pura. È liquidità pura, ve lo posso assicurare. Il caso, il famoso caso Fastweb e Telecom Sparkly, con una truffa carosello su Roma, tramite fatture false, non ve lo sto a spiegare perché purtroppo bisognerebbe perdere un quarto d'ora, però vi dico, tramite un giro di, si chiamava truffa carosello, quindi infracomunitaria, una truffa dell'IVA su aziende quotate addirittura in borsa, ha fruttato IVA per più di 300 milioni di euro, che naturalmente sono state sparagliate in giro per i vari paradisi fiscali, si sono perse le tracce, e poi hanno fatto fallire l'azienda cartiera, che era intestata a un vecchietto e che non aveva più un prestanome e non c'era niente da chiedere. A Roma si stanno uccidendo ancora per questi soldi, perché non sono stati recuperati tutti, e in mezzo a questa truffa carosello che implicava organizzazioni criminali, estremisti di destra, questo mob, lo stesso Carminati, quel giro lì, stiamo parlando di più di 300 milioni di euro, aveva infiltrato aziende quotate in borsa come Fastweb e Telecom. Quindi capite che il livello è molto più alto, ma è molto più alto da tanto tempo. Che cosa mi possono dare? Se io vinco un appalto, che magari l'ho vinto anche corrompendo al massimo ribasso, ho bisogno che quell'appalto venga fatto, quei lavori vengano fatti a un prezzo minimo. E se io lo do il subappalto o il subcontratto a qualcuno che non paga i contributi o altro, e chi mi fornisce quelle aziende? Me le fornisce qualcuno che io so benissimo come vengono fatti. L'occultazione del capitale all'estero. controllano professionisti, hanno società disposte a fare fatturazioni che sono disposte a entrare nel meccanismo per occultare e portare capitale all'estero. Allora io cito, perché siamo in Emilia, no, cito la Emilia, l'Andrangheta si è spartita, risponde, il pentino dice riciclavo con fatture false di aziende del nord, hanno risposto a un bisogno locale. Sono diventati fornitori di servizi, hanno risposto a un bisogno locale, di che cosa? Di evadere le tasse, di fatturazioni false. Come si fa a comprare un immobile con dei soldi portati? Guardi, ci sono, per carità, alcune banche cattive, la maggioranza sono buone, così. Ma se mettiamo caso che io ho a che fare con una banca, tra virgolette, birichina, e io ho i soldi alle Cayman, tutte le banche internazionali hanno una sede alle Cayman, come faccio io ad avere i soldi per comprare un immobile? Me li presta la banca, pago un tasso di interesse e sono sempre soldi miei. Voglio vendere un immobile, un palazzo intero qua nel centro di Bologna, quell'immobile è intestato a un'azienda in cui il titolare effettivo, quindi il beneficial owner, è una fiduciaria, e dietro la fiduciaria c'è un trust, e dietro il trust c'è un... utilizzarli, me li faccio prestare. Allora, caso successo qua a San Marino sull'Emilia Romagna, allora, inchiesta oro nero, come funzionava l'inchiesta oro nero? C'era una banca, poi andate a vedere tutto sui giornali, che dava un servizio particolare, era come faccio a gestire il nero, ve lo diamo noi il servizio, prendevano il contante, lo portavano a San Marino, la banca di San Marino aveva una banca qui in Emilia Romagna e gli prestava i soldi. I soldi li ho presi in prestito. Volete un caso vero, Milano anni 90, quindi stiamo parlando società di franchising in pizzeria, e apre la pizzeria compra, il franchising ha bisogno dei mobili uguali per tutte le, e quindi c'è un'azienda che fornisce quei mobili e fa l'arredamento. Io sono un prestanome dell'organizzazione, compro i mobili dell'arredamento a 3 volte il prezzo vero, faccio un bel leasing con la banca dà subito i soldi all'azienda di mobili Pizza Mobili, che ha preso subito i soldi, e io batto degli scontrini falsi, anche se la pizzeria è vuota, e il contante che magari mi arriva dallo spaccio della droga lo censisco con gli scontrini, lo faccio entrare dentro e ripago la banca delle rate del leasing. No, siamo a un altro livello, cioè, no, quando li vengono a raccontare che c'hanno il sacco e lo portano, lo nascondono, sì, ci sarà anche quello, ma in verità siamo a un altro livello. Siamo a un altro livello che è così ormai oltre che è difficile anche intercettarlo, anche perché quel livello è il livello che non è che lo utilizzano solo le organizzazioni criminali. È il livello che viene utilizzato da che cosa? Dalla grande evasione fiscale, che è il più grosso problema che abbiamo nel mondo. E naturalmente mi ricordo ormai anni fa, quando io avevo posto una domanda a un grande esperto di questo tipo di organizzazione, ho detto: ma mi scusi, se un'azienda dagli anni 90 che ci sono stati gli attentati è andata bene per 30 anni, cosa fa un'azienda quando va bene? Secondo voi cosa fa? Un'azienda che va bene, fa fatturato, funziona, cos'è che fa? Si ingrandisce, e quello che c'è adesso non è quello che c'era allora, e cambia, perché poi quando io arrivo ad avere, è stato detto prima molto bene, tanti soldi, entro nei salotti buoni, perché i soldi non fanno schifo a nessuno e soprattutto non fanno schifo a quei salotti e soprattutto non fanno schifo al sistema finanziario. E allora, che cos'è, come viene definito il riciclaggio? È definito in tre fasi ben specifiche. Uno è l'origine del denaro, frutto di reato. Vi ricordo, il riciclaggio è qualsiasi origine di reato non colposo. Ma l'evasione fiscale è un reato non colposo? Penso di sì. Non è che, oddio, ho preso il motorino, sono scivolato e non volevo investire una persona, l'ho investita, ho colpa, ma non volevo, non ho il dolo di farlo. L'evasione fiscale, diciamo che non è un reato non colposo, è un reato colposo, c'è il dolo. Poi c'è la stratificazione. La stratificazione che cosa significa? Significa distanziare quel denaro dall'origine. Quindi io devo distanziarlo con che cosa? Con delle operazioni per fare in modo di non essere rintracciata l'origine illegale. E di illegalità c'è l'evasione fiscale, lo spaccio della droga, l'usura, qualsiasi tipo di cosa, qualsiasi reato, la truffa, eccetera, eccetera. Una volta che questo denaro viene distanziato ed è pulito, c'è l'impiego. E lo impiego in una qualsiasi attività, e quindi apro un negozio, investo in borsa, e chi compra la Ferrari è un po' stupido perché attira l'attenzione, le vere persone di un certo tipo non si fanno notare, però i casi giudiziari hanno fatto sì che molto spesso alcuni personaggi hanno bisogno di farsi vedere, che sono per esempio il funerale con l'elicottero a Roma o altri tipi di cose, e fanno attirare l'attenzione. È stupido, però probabilmente nella mentalità di alcuni è importante far vedere che sono forti. L'altra cosa è che la legge dell'anti riciclaggio prevede anche il contrasto al finanziamento al terrorismo, che è diventato importante in questi anni perché ci sono stati gli attentati. Lì il giro è diverso, partono puliti per essere impiegati, diciamo, ma in attività che sono attività di finanziamento al terrorismo. Ricordiamoci che stiamo parlando di una particolarità di terrorismo, che è il terrorismo islamico, e quindi esistono onlus di carattere islamico che raccolgono denaro di carità. Sapete benissimo che uno dei cinque pilastri dell'Islam è fare la carità, e quindi è una bella cosa che nella mia vita io faccio la carità perché ritengo giusto, ma chi raccoglie il denaro lo impiega correttamente o lo utilizza per convincere o per fare o per istruire, eccetera, eccetera. Una volta raccolto si occulta e poi si impiega è difficilissimo trovare la ricarica della carta prepagata che affitta la macchina per investire X persone. È più facile trovare la onlus che sposta il denaro da qualche parte, eccetera, eccetera. Esistono anche, per vostra informazione, uno spostamento di denaro nel mondo islamico che si chiama hawala. Che cos'è la hawala? È un money transfer illegale, cioè parliamoci chiaro. Ha sede o in una macelleria o in un internet point o in un locale di questo tipo, io do il denaro, loro mi danno un codice, mando via WhatsApp in Pakistan questo codice alla mia controparte, la mia controparte andrà dall'equivalente del macellaio che c'è qui in Pakistan, darà il codice e gli viene dato il denaro. Il denaro non si sposta, è un sistema di compensazione. Il sistema è vecchio come il mondo, lo usavano alcuni commercialisti a Milano per trasferire i soldi in Svizzera. Tu venivi nel mio studio, io ero il commercialista speciale che dava il servizio Primat, e tu mi davi i soldi, io telefonavo al mio amico commercialista in Svizzera, mettili sul conto X, i soldi non si spostano. Poi una volta l'anno, una volta ogni 6 mesi, tramite triangolazioni faccio il giro della compensazione. Quindi capite che non è, se io devo spostare soldi in Bangladesh, non è che io faccio un bonifico diretto, o se devo spostare soldi alle Cayman, sono pochissimi i bonifici che vanno per le Cayman. Vengono spostati prima in un paese, sempre della comunità europea, in white list, che però è un po' più restrittivo nell'essere trasparente, per esempio Lussemburgo, per esempio la stessa Inghilterra, Malta, Cipro, ne abbiamo abbastanza, e dopo da lì passano su qualche hub finanziario, diciamo un po' più distante, può essere Londra, che da Londra poi si sposta a Dubai, da Dubai magari va alle Cayman. E poi ciao. Alle Cayman, per farvi capire, c'è una legge penale che è reato penale, quindi vengono portati, ti portano in galera se fai domande su società. Quindi se voi notate, tutti i servizi che vengono fatti su questi argomenti vanno magari a San Marino, vanno in Lussemburgo, vanno, chiedono, naturalmente non gli rispondono, però chiedono, fanno servizio. Non c'è mai, se voi notate, nessun servizio di qualche giornalista che va alle Cayman, perché se lo osano fare, lo Stato delle Cayman ha fatto una bella legge penale che dice se c'è qualcuno che viene qua a rompere le balle, a chiedere, a ficcare il naso, vai in galera. Semplicissimo, non, e quindi nessun giornalista andrà mai alle Cayman a fare la ripresa di dire qua c'è la sede della società o cose di questo genere. Ma era Panama che non potevi essere arrestato nel raggio di X metri dalla banca. Sì, Panama diciamo che è un livello più basso, no? Perché avere a che fare, provate a essere un imprenditore o a arrivare ai salotti di un certo tipo, che queste organizzazioni ci sono arrivate, perché poi sì, è vero che mantengono sempre il loro DNA, però se crediamo che Darwin aveva ragione, c'è un'evoluzione, no? L'evoluzione, i figli, e vedo anche mio figlio che è diverso da me, e magari vanno, studiano anche loro, magari girano il mondo anche loro, non è più una cosa così esotica prendere un aereo e andare a Londra o andare a Berlino o andare in Messico, eccetera eccetera. Quindi continuare a farci vedere che sono quelli del movimento Terra, che lo sono, perché io non sto dicendo non lo sono, ma non sono solo quello, continuano a presidiare ciò che sapevano fare bene, ma è anche qualcos'altro. Allora parliamo delle fiduciarie. Che cos'è una fiduciaria? La fiduciaria è una assolutamente lecita, prevista dalla legge italiana, regio decreto durante il fascismo, vengono istituite, mi pare nel 35 e così via, è un'azienda per cui io mi posso presentare e dare mandato di agire per conto mio, mandato fiduciario. Allora la fiduciaria agisce per conto mio, cosa può fare la fiduciaria? Allora la fiduciaria a questo punto con il mandato apre un conto in banca, ha le quote di un'azienda, ha intestato la casa, ha intestato la macchina, ha intestato le quote dell'azienda che ha intestato la Ferrari, perché tutto il lusso non è mai intestato alle persone fisiche, sono sempre intestate a società, che poi queste società sono controllate, quelle un po' particolari, da delle fiduciarie. Allora uno si dovrebbe domandare, ma perché io devo pagare una percentuale in più di gestione di una società quando non la posso tenere normalmente pagando molto meno? Io a questa domanda ho delle risposte, però ufficialmente non ho mai sentito delle risposte. Si parla di riservatezza, perché la ricchezza deve essere riservata. La ricchezza deve essere riservata. Allora viene da pensare, ma se io apro un conto in banca, devo dare il documento, non esiste il segreto bancario in Italia, ma se arriva una società che sta sotto il 25%, c'è una fiduciaria, che va in un trust, che va di là, che va di là, bla bla bla, alla fine c'è un legale rappresentante, ma non si capisce chi è il vero proprietario. E dopo vi racconto una cosa che è successa a Milano proprio poco tempo fa. Allora abbiamo reintrodotto il segreto bancario, ma questo segreto bancario particolare a chi è concesso? Solo una piccola parte della società, che è chi ha le disponibilità, i professionisti, gli strumenti per agire, perché costa. E perché io devo spendere di più? Perché? L'altra cosa sono i trust. Che cosa sono i trust? Il trust è una scatola giuridica che io conferisco i miei beni e questi beni vengono amministrati da un trustee, un amministratore del trust. Quindi ho ancora tempo, io posso parlare un giorno, quindi quando siete stanchi alzate la mano e fermatemi. Un quarto d'ora questa volta. Quarto d'ora solo? No, va bene. Così sentiamo se loro vogliono. No, certo, scusa, allora devo andare un po' più veloce. Allora, il trust, che cos'è il trust? Una scatola giuridica, io conferisco i beni, c'è un amministratore, i beni sono del trust a questo punto. C'è un amministratore che agisce l'amministrazione dei beni secondo un mandato. Allora, facciamo un esempio. Io sono molto ricco, i miei figli sono dei delinquenti, e se gli lascio l'azienda, penso che ne combineranno di tutti i colori, conferisco l'azienda a un trust, metto un amministratore che mi fido e scrivo: date per tutta la vita 5.000 euro al mese ai miei figli, ma non fategli gestire l'azienda. L'azienda va gestita. E questo, diciamo, che è il trust buono. Trust cattivo è: io sono una persona di un certo tipo o sono un'organizzazione di un certo tipo, conferisco tutti i beni al trust, siccome non è previsto la legislazione italiana, ma l'abbiamo dovuto recepire per la Comunità Europea, perché vi ricordo che finché c'era la Comunità Europea c'era la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi, quindi l'abbiamo dovuto recepire. Bisogna farlo con una legislazione non italiana, quindi io devo fare un trust lussemburghese, un trust inglese, un trust delle isole Jersey, un trust eccetera eccetera. Allora io sono molto ricco, conferisco tutto, vivo in casa mia e pago l'affitto al trust, e magari siccome sono una partita IVA detraggo anche parte dell'affitto perché sto pagando l'affitto a una terza persona, cosa che avviene normalmente, questa cosa qui. I trust, ne abbiamo avuto prime notizie dei trust, si riferiscono appunto ai Cavalieri Templari. Perché? Perché loro partivano per la crociata, stavano via degli anni, magari morivano durante il viaggio o chissà che cosa, quindi facevano un trust con l'amministratore per gestire i beni della propria famiglia. Quindi si hanno notizie dei trust fin dai tempi del Templari. Il trust può a questo punto amministrare, se viene conferito tutto, può addirittura, come vediamo, essere il mandatario di un mandato fiduciario. Quindi la fiduciaria prende il mandato di un trust, e chi c'è dietro poi? Allora, solo per farvi capire, perché se è un quarto d'ora andrei... Ci sono delle normative europee, direttive europee dell'antiriciclaggio, ce ne sono state 4, è già stata approvata una quinta ed è stata approvata proprio pochi giorni fa una direttiva antiriciclaggio penale addirittura, che forza gli stati, come sapete le direttive devono essere recepite, questa dovrà essere recepita entro il 2020 se esisterà ancora la Comunità Europea, che dice che forza gli stati nel rafforzare il penale contro l'antiriciclaggio, soprattutto sulla corruzione e l'evasione fiscale. Soprattutto sulla corruzione e l'evasione fiscale. Che cosa è successo? È successo che una cosa che pochi sapevano, fin dal 91, nel recepimento della prima direttiva europea, abbiamo avuto che la pubblica amministrazione era un soggetto obbligato a segnalare le operazioni sospette. Non si sono mai fatte queste cose. una delle prime pubbliche amministrazioni che ha fatto le segnalazioni di operazioni sospette è stato il Comune di Milano, e con la giunta Pisapia innescato dalla commissione antimafia che era stata istituita, dicendo facciamo anche noi le segnalazioni di operazioni sospette. Con la quarta direttiva, una manina, che queste manine delle leggi che ci sono sempre, una volta capito che poteva essere un qualcosa, ha cambiato il recepimento della quarta direttiva e ha tolto l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e l'ha cambiato in obbligo di segnalazione di dati e informazioni riguardanti le segnalazioni sospette, quindi ha negato un po', non ha tolto l'obbligo, ha negato un po' la cosa, però lo stesso esiste questo obbligo, naturalmente senza nessuna sanzione, e siccome in Italia l'etica è quello che è, se non c'è la sanzione è quasi come se non ci fosse la regola. E questi indicatori, cioè per applicare la segnalazione operazione sospetta, che cos'è? È ravvedo qualcosa di particolarmente sospetto, segnalo il sospetto a chi? Alla Financial Investigation Unit italiana, che poi la matcha, quindi la incrocia con le segnalazioni degli intermediari finanziari, e se c'è qualcosa di particolarmente grave, se è veramente così grave, la passa direttamente alle procure che ha fatto gli accordi, Milano, Roma, Napoli, se no la passa al nucleo speciale di polizia finanziaria, o se no la passa alla DIA se ravvede della cosa. Poi questi indagano ancora e poi dovrebbero sfociare in procedimenti penali. Per fare questo devono essere pubblicati degli indicatori di anomalia. Questi indicatori di anomalia erano stati fatti nel 2015 anche con il supporto dell'ANCI Lombardia, erano stati stesi soprattutto per quanto riguarda gli appalti, il commercio, gli immobili, poi quelli più generici li aveva fatti l'UIF, ed erano un buon senso. Praticamente partecipazione alla procedura di affidamento di beni e lavori pubblici, servizi, fornitori in assenza di qualsivoglia convenienza, dopo vediamo un bel caso, o se no nel settore immobiliare disponibilità di immobili e altri beni di pregio da parte nominativi privi delle necessarie disponibilità, o nel commercio ripetute cessioni di licenza, arriva uno alla faccia pulita, come entra, come parte, viene subito fatto un subentro e iniziano a entrare personaggi sempre peggio. A Milano, per esempio, l'Expo è stata una grandissima occasione per riciclare denaro. Ora qualcuno dopo... Perché? Perché si è passati da 2.000 qualcosa, 2.000 passa ristoranti, erano dai 2 o 3.000 a 5.000. E si sono aperti in zone di movida, ristoranti, pizzerie, birrerie, che chissà perché queste società si riconducevano in Sicilia, in Campania, in... E allora una domanda, ma come tutta questa imprenditorialità, come mai in luoghi dove c'è una depressione ci sono così tanti capitali imprenditori che si possono permettere di aprire tutti questi locali in una zona molto cara come Milano durante l'Expo? Qualche domanda qualcuno se la doveva pur fare. E allora io facciamo un esempio di che cosa può essere il sospetto. Il sospetto, siccome sono normative basate su principi, perché arrivano dal mondo anglosassone, il sospetto è se io sono davanti a una procedura o dei fatti o dei dati per cui io non riesco a rispondere al principio, è tracciabile, è trasparente questa operazione. Se io ho a che fare con una società di quel tipo che mi chiede di una concessione di costruire un palazzo e che non si riesce a capire chi è il proprietario, quando si fa un'indagine il notaio dice non si può capire chi è il proprietario, secondo voi la pubblica amministrazione ha il dovere e il diritto di andare avanti su quel tipo di procedura? Ma voi vendereste una macchina a uno con il cappuccio in testa, o comprereste la macchina con uno con il cappuccio in testa? Oggi la pubblica amministrazione fa questo tipo di cose perché non ha l'obbligo di chiedere il titolare effettivo per gran parte delle procedure. Una mozione del Consiglio Comunale di Milano è passata dicendo di introdurre l'obbligo di chiedere il titolare effettivo per tutte le procedure, anche quelle che non venivano chieste, ed è passata con grande difficoltà, con consiglieri che urlavano a vedere dal buco della serratura, qualcuno che diceva che bloccava il settore immobiliare. Ma secondo voi si blocca il settore immobiliare se uno vuole sapere chi è il proprietario di quell'azienda lì? Cioè viene qua, mi chiede di fare un complesso con un grattacielo e io non so chi c'è dietro. E sono soldi esteri di fondi, si ricicla coi fondi. Perché quei soldi vanno, tutti i fondi di private equity hanno sede alle Cayman. Chi sono i proprietari di quei fondi? Chi sono quei soldi? Nessuno lo sa. Sono di investitori. E poi viene su un bel grattacielo di 30 piani, che è costato 200-300 milioni di euro, eccetera, eccetera. Allora, questo è per farvi capire negli appalti. Questa qui sono dati veri, e naturalmente non vi posso dire dove sono stati presi. Era una gara al massimo ribasso. Guardate un attimo il massimo ribasso dove si posizionava. 42,3, 42,4, 42,5. Mentre l'altra era 34% di ribasso, 39%, 38% di ribasso. No, sì, c'erano dei gradini. Poi ce ne sono tre che si discostano di pochissimo. Allora, quelle tre aziende arrivavano da un paesino del centro Italia sulla montagna, non avevano un sito web, alcune erano intestate a delle signore che non si capiva bene cosa facessero, casalinghe, cose di questo genere, e però queste aziende, oltre che a vincere gare in quel comune, avevano vinto gare in tutta Italia e partecipavano regolarmente a tutti i bandi. Qua stiamo parlando della corruzione sui bandi, diciamo, principali e più esposti. Quali sono i bandi più esposti, i lavori pubblici più esposti alla corruzione? Sono quelli programmabili, ripetitivi e con basso contenuto di manodopera intellettuale. Manutenzione strade, manutenzione edifici, pulizia, mense, eccetera, eccetera, eccetera. Perché se il Comune di Bologna vuole fare un sistema di ticketing elettronico, chiamerà Google, chiamerà l'IBM, chiamerà qualcun altro, è lui che chiama questa azienda e dice: fateci delle proposte, noi abbiamo bisogno di fare un progetto innovativo. Non chiama un'azienda che sta nel paesino, che nessuno conosce, non sa niente. Però quell'azienda partecipava a Milano, partecipava a Roma, partecipava a Napoli, partecipava a Torino. Quando abbiamo fatto vedere questi dati, le risposte dei funzionari di un comune grande c'è stato: ma è tutto perfetto, cioè formalmente è tutto a posto, noi cosa potevamo fare? Certo che ce ne accorgevamo che c'era qualcosa di strano, ma cosa potevamo fare noi? Quindi il fatto di poter segnalare dà uno sfogo anche a questo tipo di situazione. In questo momento è ferma la gara per l'affidamento della mensa scolastica al Comune di Torino, perché la gara è stata fatta col massimo ribasso, la ditta che ha vinto la gara ha fatto, come in quel caso lì, un ribasso straordinario e sarebbe vista giudicare regolarmente la gara. Per fortuna, dico io, per sfortuna dicono loro, la procura di Prato ha emesso un'interdittiva di mafia, antimafia, su quell'azienda, che è un'azienda toscana che si chiama Ristorante, perché quell'azienda ha evidenti problemi, ed è la stessa azienda che segue ospedali, mense scolastiche in Calabria, tra cui il CARA, che ha avuto il Crotone, che ha avuto numerosi problemi. Però l'affidamento massimo ribasso, esattamente quello diceva, Comune di Torino, cioè non è che raccontiamo storie che stanno piazzate nel mondo, no, così, di un altro luogo. Comune di Torino non è sicuramente un comune, come dire, può piacere o meno, ma che vede, insomma, una giunta infiltrata, no? Però i meccanismi poi hanno queste ricadute. È ancora meglio la cosa, ma il problema, e lei ha ragione, il problema non è la regola, il problema è come si gestisce la regola, perché se io faccio la regola, poi ci incontriamo tutti noi, ci si mette d'accordo, qualsiasi regola io metterò, riuscirò sempre ad aggirarla. Il problema del massimo ribasso, che ora è fortemente sconsigliato, non è che non esiste più, fortemente sconsigliato dall'ANA, che dice dovete fare l'offerta economicamente vantaggiosa o economicamente più vantaggiosa. Ma io lì la posso disegnare ad hoc su qualcuno se ho l'entratura del funzionario giusto del comune, perché il punteggio su determinate caratteristiche lo baso in modo tale che chi si presenterà magari sa come viene fatto e sarà l'azienda che vincerà in modo migliore. Ma la cosa peggiore non è tanto chi vince, perché chi vince magari la faccia pulita, chi vince magari uno studio che ha 5 persone, vince il progetto e poi passa e lo fa qualcun altro. E chi lo fa? Non esiste database dei subappalti, non esiste database dei subcontratti. A oggi il procuratore nazionale antimafia Del Rao ha ribadito per la seconda volta, almeno pubblicamente, che ci vuole una base dati nazionale di chi partecipa agli appalti, per capire se ci sono ridondanze, per capire se vincono sempre loro. Ma se uno non sa neanche chi è il subappalto, a chi va un subcontratto, chi è che va a verificare sulla strada che l'azienda che tappa le buche se è sempre quell'azienda lì? Vince A, vince B, vince C, ma dopo il lavoro lo fa sempre D. Quindi non è, secondo me non bisogna legarsi troppo alla regola. La regola deve essere la più semplice e la più trasparente, perché più io metto complessità e più è facile corrompere, è più facile che i meccanismi di corruzione valgano. Ora è più importante non corrompere il politico, corrompere il funzionario. Il politico va, il funzionario rimane sempre lì. 5 minuti. Allora che cosa si era pensato? Ormai queste sono slide antiche, che i comuni hanno la vita delle persone in mano, hanno tantissime informazioni, hanno il database del commercio, l'ISE, se hanno fatto l'accordo per il recupero dell'evasione fiscale hanno la possibilità di accedere ai dati dell'Agenzia delle Entrate con tutte le dichiarazioni dei redditi in formato informatico. Hanno il database delle multe, ma per esempio qui probabilmente ci saranno le macchine o a Rimini le macchine con la targa San Marino. A Milano è un'invasione di targhe svizzere, di gente che in ogni modo vive a Milano, non è che gente che cioè, se un vigile ferma una bella macchina di grossa cilindrata così via del Canton Ticino e dopo si scopre che quello vive lì, e magari questo qui vado a verificare, le tasse le paga, dice che le paga in Svizzera, ma se è residente qua, uno dei casi eclatanti che... Non è più... Sì, vedremo se sarà applicata. Ad oggi è pieno. Vedremo come sarà applicata. E per dirvi, un caso super eclatante, che tanto è sui giornali, a Milano è stato il caso di Del Vecchio. Del Vecchio diceva che viveva a Monte Carlo, in verità viveva a Milano in uno splendido appartamento con tanto di maggiordomo, eccetera, eccetera. È stato, diciamo, attenzionato, è stato dimostrato che lui viveva lì, e siccome questa persona pare che sia un signore, quando è andato dall'Agenzia delle Entrate ha detto vabbè, quanto costa sanare la cosa? Questi hanno detto 100 passa milioni di euro, lui ha detto vabbè, paghiamo e chiudiamola lì, punto. Però qualcun altro che ora è deceduto, per esempio il signor Ferrero, dichiarava che viveva a Monte Carlo anche lui. Lui viveva veramente a Monte Carlo. Cioè, capite che ci sono tutta una serie di situazioni un po' particolari. Nel modo, il comune ha la vita delle persone. Incrociare questi dati da persona che dichiara zero, che però ha X case intestate, il numero di licenze. A noi mi ricordo quando si è detto, ma scusate, avete mai fatto l'incrocio del legale rappresentante di esercizi commerciali con la teco bar in determinate zone, se si ripete questa cosa? La risposta di un comune grande è stato, se lo facciamo ci ammazzano. Il che significa che lo sapevano bene che cosa c'era dentro quel database lì, ma nessuno voleva aprirlo e andare a vedere. Tutt'oggi non è mai stata fatta questa cosa. L'altra cosa sono i professionisti. Per fare delle pratiche in Italia, e soprattutto in Italia, ci vogliono i professionisti. Perché? Perché la norma è sempre complicata, non è mai semplice. Quindi per poter fare alcune cose c'è bisogno del commercialista, dell'avvocato, del notaio, eccetera, eccetera. State pur certi che determinati ambienti si servono sempre degli stessi professionisti. Quindi il professionista è un collante che o fa addirittura parte di quel tipo di organizzazione o è il professionista fidato di determinate situazioni. Certi locali sulla Movida milanese, le procedure delle pratiche sono sempre fatte dalle stesse personaggi. Poi in un caso si è scoperto che addirittura poi il padrone, il legale rappresentante, era quel commercialista lì. Poi non era lui il vero padrone, però figurava lui come legale rappresentante di X società che controllavano X locali, tutti messi in posizioni strategiche. È sempre lui che presenta la pratica di variazione edilizia, è il più bravo. Nel paesino piccolo ce ne sono due o tre, sono sempre quelli, ma in un comune grande è il più bravo o è quello che ha l'entratura con il funzionario comunale, per cui quella pratica passa, se no no? Forse sì, forse no. In ogni modo, il professionista molto spesso ci dà delle indicazioni. E l'approccio al rischio, quindi saper gestire un rischio di determinate procedure, di determinate situazioni, fa sì di un controllo maggiore. Io so che nella pubblica amministrazione la legge italiana prevede sempre il controllo a campione. Delle X pratiche bisogna fare a campione, ne prendo 5 e le controllo. Allora vi dico come funziona il revisore, il classico revisore di bilanci, il classico revisore di bilanci, punto. Alle volte, non sempre. A campione prendo le fatture delle spese di rappresentanza di un'azienda. Oh, porca miseria, mi viene fuori la fattura all'azienda del figlio. Cosa faccio? Rimettile dentro e estraene altre 5. Voi pensate che questa cosa succeda o non succeda? Io non lo so. Può darsi che succeda. Allora, il controllo su procedure non omogenee, il controllo statistico fatto bene si fa sulla produzione dei bulloni, cioè sulla produzione di manufatti identici. Allora io a caso estraggo, misuro il bullone, ok, fatto bene, eccetera eccetera. Su procedure disomogenee, cioè la procedura identica ma soggetti disomogenei, non posso applicare il principio del campionamento statistico, devo applicare un principio del rischio, e me lo dice la comunità europea, me lo dice la legge. Che cos'è il principio del rischio? Su quelle caratteristiche rischiose faccio un controllo più approfondito. Società che si avvale di determinati requisiti per partecipare al bando e l'avvallimento è fatto da una società che è in Campania, in un paesino, e mi presenta qui di partecipare alla gara qua, forse mi fa scattare, forse controllo un po' meglio quella roba lì, no? Questo è un caso solo per farvi capire. Cioè, dove è più rischioso controllo meglio. E allora che cosa può fare, perché ormai il tempo purtroppo, e voi sarete anche annoiati che siete qua, che cosa può fare un comune applicando anche la norma dell'antiriciclaggio? Può uno intanto mettere dei controlli di sostanza, il che non significa che sono controlli formali, perché vi assicuro che qualsiasi funzionario pubblico che voi parlate, ma scherziamo, se non fosse corretta la pratica non avremmo mai assegnato questi lavori, se non fosse corretta questa cosa non avremmo mai dato il permesso di costruire. Formalmente è tutto a posto, cioè deve essere proprio un deficiente se formalmente non è a posto la pratica. Il controllo deve essere fatto sostanzialmente, sostanziale, e deve essere fatto con le forze che si ha, applicando un principio del rischio. Si è fatto una formazione in alcuni comuni sperimentali, nei comuni lombardi, in cui applicando presentando i vari indicatori che si erano fatti sul commercio, sugli appalti e sugli immobili, si erano fatti 3 tavoli, gli immobili, gli appalti e il SUAP, lo sportello unico delle attività produttive. Vedendo e studiando questi indicatori, che cosa era emerso? Che la maggioranza dei funzionari che aveva partecipato a questi seminari, che erano, non erano neanche corsi univoci, nel senso frontali, erano un po' frontali e un po' di brainstorming, di scambio di idee proprio per far venire fuori. Ma che cos'è che è emerso da questi tavoli? Uno, che i funzionari pubblici dicevano: ma io quelle cose le vedo tutti i giorni, io quelle cose le vedo, ma non sapevo che cosa fare. Ma non sapevo che cosa fare. E allora, se un buon comune, se un buon amministratore sposa l'idea che forse quella roba lì che vedo tutti i giorni è anche compito nostro, compito del comune, compito di noi cittadini, dire che non va bene, e non dire ma c'è la polizia, ci sono i carabinieri, c'è la guardia di finanza, c'è eccetera eccetera, noi siamo contro tutto, firmiamo tutto, noi siamo contro tutto, ma cosa posso fare io? No, invece il comune, che è l'organo, l'ente più vicino ai cittadini, può fare, perché le vede. Allora, a quel punto lì, se è un reato, vi ricordo che il funzionario pubblico ha l'obbligo della denuncia, ha l'obbligo, il buon cittadino ha l'obbligo morale della denuncia, ma non ha un obbligo penale. Il funzionario pubblico ha un obbligo penale, cioè è un reato non denunciare se lui si accorge di un reato. Ma se la procedura è tutta a posto, non ravvede un reato, ma quella cosa è evidente che è strana, quello si chiama sospetto. E con la normativa antiriciclaggio ha la possibilità di canalizzare quella cosa e quindi generare una segnalazione di operazione sospetta. Sull'evasione fiscale può fare una segnalazione qualificata e il recupero dell'evaso, quindi di illegalità di evasione fiscale, ritorna al 100% al comune, il recuperato, non il segnalato. E se la vede un reato, perché se io controllo, poi mi accorgo di le cose. Se io non guardo niente, non mi accorgo di niente, ma se io inizio a guardare, state pur certi che qualcosa la trovo. Naturalmente non è che gli impiegati devono diventare della polizia giudiziaria, nessuno chiede questo, ma quelle cose che vedono tutti i giorni con un minimo di sensibilità in più, nel dire guarda che quella roba lì potrebbe anche essere quello, quando tu fai quel lavoro prova a pensarci. Se il comune si struttura, che magari il funzionario dice io ho visto questa roba, la passo a qualcun altro, l'organo centrale fatto da degli esperti fa delle indagini ulteriori per capire se c'è dietro qualcosa e potrebbe scovare o un reato o segnalarlo a lui, cioè dare quello sfogo di quel sospetto. E allora concludo, non vi faccio questa roba qua perché diventa noioso, ma se tutto questo è un bene, posso recuperare i soldi nell'illegalità, posso intervenire, abbiamo visto all'inizio che il controllo fa sì che in ogni modo in una società dove si è persa l'etica, il controllo fa sì, beh forse è meglio che sia, c'era nell'evasione fiscale l'effetto Visco, quando Visco diventava ministro dell'economia e della finanza, i commercialisti dicevano meglio dichiarare perché qua ci vengono a rompere le scatole, quando cambiava diceva no lascia perdere, tanto arriva il condono, no? Tanto arriva il condono, che me ne frega, lascio lì, mi arriva il condono, sanno tutto dopo. Arriva a Visco, no, ma attenzione che... Allora, se l'introduzione del controllo mi porta che anche il cittadino medio dice, ma forse è meglio che non metto il bar, il tavolino fuori, tanto chi se ne frega, non verrà mai nessuno a rompermi le scatole su questa roba qua, porta un beneficio. Se segnalare le operazioni qualificate porta del denaro, se fare in modo di prendersi la responsabilità, anche compito mio, fa sì che si diffonda un senso civile migliore, allora la domanda che mi rimane e che non riesco a capire mai perché non viene risposta, perché non farlo? E con questo concludo, se avete delle domande, grazie. Allora, due considerazioni velocissime in positivo. La prima è conosciuta di tutti, di Giovanni Falcone in prima, una svolta. Nel momento in cui ciò che lui dice diventa, nelle indagini, poi un modello, e ciò che lui dice porta come svolta è seguire il denaro. No, bisogna incominciare a seguire il denaro. Mafia Connection, tutta quell'inchiesta lì. Ora, io in negativo avrebbe da dire come siamo ancora lì, no? Seguire il denaro. Però in positivo non lo dice più, è quasi da solo, è quasi per la prima volta un magistrato inquirente, eh? ma quel seguire il denaro è diventato una cosa che iniziano a dire i comuni, è una cosa che dicono alcuni professionisti, perché se nel mondo dei professionisti ci sono molti problemi, sempre nel mondo dei professionisti ci sono un sacco di persone oneste, per esempio i notai, non che tutti i notai e gli altri no, però i notai sono fra le stazioni segnalanti maggiori in Italia. Allora, qualcosa si muove, non è tutto negativo, qualcosa è transitato fino ai comuni. L'esperienza di Milano non è unica. In questa regione, il comune di Formigine, 3-4 anni fa, sulle segnalazioni, fa incassare al comune 800.000 euro in un anno. 800.000 euro per un comune di 34.000 abitanti, su un bilancio che di, sono andato a cercare perché non lo ricordavo, 26 milioni, parte corrente, escluso gli investimenti, vuol dire il 4% del bilancio. Allora, ci sono magari frammentate, magari troppo poche, però il quadro è difficile, ma è possibile fare delle cose. Ecco, questa era l'unica cosa che volevo dire. Poi adesso siamo tutti stanchi, se volete chiudere chiudiamo, io eviterei solo un chiudere un pezzettino per volta. Se c'è qualcuno che ha delle questioni, delle domande, dei suggerimenti, delle critiche, però noi siamo qua, insomma, le ascoltiamo volentieri, e se no, se legittimamente vogliamo salutarci, prego. La risposta è sì, sarebbe possibile, sono obbligate perché sono un ente dello Stato. La risposta, se lo fanno, no. Non le è stato chiesto anche, non gliene frega niente. Cioè, non gliene frega niente. E, vabbè, forse è un po' forte dire non gliene frega niente, però non lo fanno. E loro avrebbero tutti i dati. Beh, un altro è l'ANAC, Ora parliamoci. L'ANAC teoricamente ha tutti gli appalti, tutte le gare, un database che ha tutte le gare dentro, che naturalmente non è aggiornato, non c'è dentro chi ha vinto. Io ho fatto parecchie interrogazioni all'ANAC su tanti CIG di codice identificativo della gara, la risposta è stata: ah sì, ma il vincitore ce lo deve mettere dentro il RUP, il responsabile comunico del procedimento, e non ce lo mettono. Quindi l'ANAC dice è colpa del RUP che non mette, che non aggiorna la base dati. Quindi, e il RUP è sempre quello di prima, che nel 2020 c'ha 60 anni e il 34% dei quali non c'ha neanche il diploma, Cioè, per non fare una lettura che si ferma alla non volontà. Ecco, cioè, è sempre quello lì il RUP, in quella categoria. Lei ha ragione, le camere di commercio non lo fanno, punto. E per quanto riguarda gli appalti, l'80% della spesa pubblica viene fatta sotto i 40.000 euro, quindi in affidamento diretto. Poi quindi parliamo tanto di gara massimo ribasso, gara economicamente vantaggiosa, eccetera, eccetera. Tanto l'80% della spesa pubblica viene fatto sotto i 40.000 euro in affidamento diretto. Però la base dati dei CIG, perché ci vogliono anche i CIG lì, sotto i 40.000 euro non viene tenuta centralmente. Altra domanda, qualche curiosità? prevede la stessa circolare, lo prevede la stessa circolare dell'UIFE, che viene incontro a questo tipo di problematica. Nel senso, intanto le cose perché funzionino devono andare passettino per passettino. Almeno iniziano i comuni grandi, cioè i capoluoghi di provincia possono iniziare a fare questo tipo di cose? Io penso di sì. Poi i piccoli comuni non devono fare tutto, ma sotto un profilo di formazione i responsabili, cioè lo sportello unico attività produttive ce l'ha anche il piccolo comune, il permesso di edilizia ce l'ha anche il piccolo comune, se ravvedono delle cose possono benissimo fare in modo che si strutturi un'organizzazione ad hub. Cosa significa? Significa che il capoluogo di provincia si assume la responsabilità di ricevere le persone di sospetto strana e poi l'ufficio che fa un ulteriore controllo più approfondito, dove ci vuole una persona che abbia degli skill, l'accesso alle base dati, eccetera, ha il comune con Bologna, si prende tutta la sua provincia e i comuni della sua provincia segnalano a Bologna, guardate che, o alla regione, guardate che c'è questo tipo di situazione anomala, l'ufficio antiriciclaggio fa la sua indagine per capire se effettivamente qualcosa di strano o no e sarà quell'ufficio lì a trasmettere. È stata fatta per i professionisti, perché i professionisti sono obbligati alla legge, sono soggetti obbligati alla legge. E allora cosa si è fatto? Perché il piccolo professionista non poteva fare, si è fatto che l'hub lo fa l'ordine. L'ordine dei notai di Bologna si prende la responsabilità di ricevere le segnalazioni e poi la segnalazione viene fatta dall'ordine dei notai, perché c'è anche un principio di riservatezza, perché sapere che uno viene segnalato è una cosa abbastanza grave che purtroppo in molti casi è uscita. Vi dico solo una cosa che poche persone sanno, per dire, quando escono le notizie delle persone indagate che non è ancora arrivato la busta gialla, l'avviso di garanzia, no? E quelle informazioni teoricamente ce l'ha solo il magistrato, la polizia giudiziaria, no? Perché non lo sa neanche l'avvocato lo sa quando gli viene consegnata la busta gialla, che dice ti sto indagando, quindi tu puoi venire a chiedere tutte le carte che ho in mano io se sono il magistrato. Ma in verità quando vanno in giro a chiedere, sporcano un po' l'informazione, nel senso, perché se io indago, magari chiedo l'intercettazione telefonica a un'azienda di telecomunicazioni, magari chiedo gli esatti conti a una banca. E in banca c'è un ufficio che ha i rapporti con la magistratura. Quindi la banca molto spesso viene a sapere prima che ha un cliente che qualcuno lo sta indagando, prima che lo sappia lo stesso cliente. Quindi ci sono tante cose un po' particolari in giro, cioè nel senso, un buon direttore di banca che sa fare il suo mestiere lo capisce al volo, dovrei spiegarlo se un cliente è indagato o no. Per tanti è questione del rischio, no? Capisce, vede il rischio che schizza, c'è qualcosa che, se la banca ha messo in piedi il sistema informativo correttamente, lo percepisce subito. Se quel direttore è vicino a qualcuno, magari va a dire occhio che c'è qualcosa di strano che ti sta succedendo. Vabbè, spero di aver risposto. Si può fare, ci vuole la volontà. Il piccolo non può fare tutto, si organizza con quello, fa l'hub, il comune più grande che ha le risorse, e quello più grande fa quello che i comuni piccoli non possono fare. Allora, prima che tutti scappino, un po' per volta, grazie di essere stati qua tutta la sera, grazie anche per aver accettato questa sfida un po' nei cambiamenti con i relatori, speriamo ne usciate comunque soddisfatti e torniamo a promettere che il dottor Donadio sarà qua una sera, magari da gennaio, fuori da questo percorso. Grazie e arrivederci. Grande Mario, ciao. Vai tranquillo. Non mi è mai successo, ero proprio stanco, sono arrivato, perché poi ho fatto tutto, arrivo un'ora prima, così arrivo con il cane, con il caffè, tranquillo, mi sveglio, sapete che stanno facendo, oddio. Poi meno male che nella sfortuna da tutto, sono arrivato a Rimini, sono sceso e arrivava un treno. È una freccia bianca che andava in su con 10 minuti di ritardo, sono salito subito e ha recuperato il ritardo, è andato puntuale, il controllore ha capito, mi ha fatto parlare niente, è stato gentilissimo, è arrivato, il taxi era subito lì, cioè questo è proprio il caso della vita che succede. Io una volta pensate che invece della stanchezza di corsa a Firenze avevo due Eurostar, uno andava a Milano e uno a Padova. Avevo già spento? Una cena a Padova, no, quello a Milano come se mai e poi quindi